Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, ore 21:30, come sempre, qui in diretta su runtimeradio.it, che sta cambiando, sta facendo grandi trasformazioni, ma ve l'abbiamo già detto, probabilmente questa è l'ultima settimana, se non addirittura una delle ultime dirette che, insomma, potrebbero avvenire con il vecchio sistema, perché stiamo ovviamente traslocando in un nuovo sistema che è identico al vecchio, ma pare che funzioni, a differenza di quello vecchio, pare che funziona, insomma, quindi poi vi racconteremo, spiegheremo e via dicendo, ma non è questa la serata. Carlo Sant'Agostino con noi. Ciao, ciao, con i piedi, con le mani, ciao, ciao. Col culo pure. Col culo. Ciao, ciao, okay. Ciao, ciao. Roberto Tomaiuolo. Ciao, ciao a tutti, ciao. Sempre l'entusiasmo, no? Quello, sì, è importante, l'entusiasmo, quello importante. Ma io sono la parte riflessiva, la parte, come dire. Vabbè, riflessiva è una cosa che, insomma, deprimente è un'altra. Comunque anche Davide Gatti. Eccomi qua, io stasera invece con problemi tecnici. Tecnici, sì. Devo chiamare un esperto di sistemi qua, perché non riesco a venirne fuori. Esatto. Chi è che se ne intende? Non lo so, se non te ne intendi te, guarda, penso che sia. No, beh, veramente... chiamerò un tecnico. Carlo, vieni tu, va. Va bene, io la prima cosa che faccio è formattare il Mac e installare Windows. Sul Macintosh. Esatto. Bello, perché poi una volta si poteva fare, ma adesso non si può neanche più fare. Quindi... No, no, si può. La versione quella RISC lì, come si chiama? RISC. Sì, non si può nativamente, si può fare con la macchina virtuale. Con la macchina virtuale. Ancora al momento non c'è. Comunque va bene, dai. Vabbè, ma anche sì, anzi. Comunque, ragazzi, siamo reduci da uno bellissimo speciale ieri sera, insomma, su Sanremo, che è stato il primo episodio di Road to Eurovision 22. Quindi, insomma, ragazzi, prepariamoci, perché faremo altre puntate. E invece questa sera ritorniamo dopo aver fatto una settimana. Noi, diciamo, tutti i giovedì ci siamo, però ogni tanto saltiamo perché magari abbiamo anche i cazzi nostri, quindi, insomma, mi sembra anche legittimo, no? Diciamo che può succedere che abbiamo magari degli impegni oppure non abbiamo preparato una puntata e via dicendo. Infatti abbiamo poi dichiarato di fare un tipo di puntata che però avevamo già fatto, e quindi abbiamo cambiato in corsa con una puntata che comunque già c'era, perché era comunque nel nostro piano editoriale, nel mio piano editoriale, quindi alla fine non è che sia cambiato molto. Davide Gatti vi fa capire quanto ne capiamo di quello che stiamo facendo, soprattutto perché, insomma, ricordate sempre che c'è Boris, ci ha fatto grande scuola, tutto, esatto, a cazzo de cane, come si dice. A cazzo de cane. Esatto. Comunque Davide mi aveva suggerito una canzone per introdurre il tema, ma io ne ho scelta un'altra. Oi boh. Vediamo chi la riconosce. Non parliamo più, a parlare non serve granché. Mangiale anche tu, le castagne arrosto con me. Hai ragione, sai, io non sarò mai come voi. Guardaci un bel film, se facciamo in tempo ci andrei. Dustin Hoffman, Al Pacino, La Dunaway, entriamoci anche lei. C'è un posto, siedi. Bene, lui è Lucio Battisti. Grande, grande. La voce l'ho conosciuta, la canzone no. La canzone è al cinema, si intitola la canzone, e tra l'altro descrive un po', diciamo, quello che, che poteva succedere a Roma in un pomeriggio qualsiasi di tanti anni fa, no? Dove magari facevi la passeggiata tipo a Via Appia o al centro e c'era il Caldarostaro, quindi quello che vendeva le castagne e arrosto, e poi decidevi all'ultimo che facciamo, andiamo al cinema, prendevi il giornale, vedevi, facevi roba del genere. Quindi questa sera noi parliamo non ipotizziamo, diciamo, come abbiamo fatto nella cena, non recitiamo il fatto di andare veramente al cinema, ma vi raccontiamo praticamente che cosa avremmo incontrato, che cosa sarebbe successo quindi a Roma per quanto riguarda me, Milano per quanto riguarda loro, quindi magari anche con le dovute differenze, perché voi sapete che nel 60 a Milano già c'erano i schermi tridimensionali a plasma ionizzato e a Roma no, noi stavamo con le diapositive, quindi esatto. Quindi in realtà faremo un po' questa distinzione, perché andare al cinema non soltanto è sicuramente diverso, era sicuramente diverso oggi rispetto a come era allora, però insomma secondo me ci sono molte cose che tante persone non sanno, e siccome che questa è un po' una trasmissione di società e costume, insomma, degli anni 70 e 80, penso insomma che sia doveroso raccontare appunto anche una fase di transizione come la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, diciamo quello che era un cinema già tra virgolette moderno, ma sicuramente, voglio dire, antico rispetto a quello che vediamo oggi. Per esempio, cari ragazzi, e qui poi ragazzi, per esempio, come è una cosa che già possiamo iniziare a condividere una nostra esperienza, perché oggi noi vediamo e sentiamo la radio e vediamo in televisione molto spesso, vabbè, poi oggi c'è YouTube ancora a maggior ragione, no? I trailer dei film ci sono sempre stati, non è che non ci stavano, no? Però diciamo che in televisione era difficile vedere i trailer dei film negli anni 70-80. Se succedeva perché magari c'erano dei contenitori specifici dove potevano capitare, perché qualche volta è anche capitato, no, che vedere in televisione. Quindi in realtà come ci si teneva informati fondamentalmente a livello cinematografico, cioè nel senso, io questo pomeriggio voglio andare al cinema, si comprava il giornale. A Roma per esempio era il Messaggero, a Milano diceva insomma giustamente Davide, che dice giustamente poteva essere il Corriere della Sera, e verso le ultime pagine dove c'erano un po' gli annunci, i necrologi e anche le signorine telefono, c'era la pagina dedicata ai cinema dove dicevano quali film erano disponibili in quali cinema, perché una cosa importante da dire è che ovviamente non esistendo ancora i multisala, c'era ogni cinema proiettava un singolo film poi fondamentalmente, no? E questo fino a che poi ovviamente le cose un po' non sono cambiate, ma tanto basta sta base, vabbè. Quindi praticamente una volta si sceglieva il film e poi si andava nel cinema che capitava, quello che ce l'aveva. Esatto. Oppure si guardava nei cinema più a portata di mano, dipende se andavi col papà, quindi se si prendeva la macchina, o se andavi con gli amici e quindi andavi con i mezzi, si vedeva nei cinema quelli che erano più a portata di mano quale film potesse essere meglio, perché poi alla fine tante volte era anche solo per andare al cinema, non è detto che era necessariamente legato al fatto di dover scegliere un film nello specifico, insomma, no? Come dicevi prima, senza trailer a volte si sceglieva dal titolo, dal nome, dall'attore, ma non si sapeva neanche che film era praticamente, si andava quasi al buio spesso. Vogliamo vedere quel film lì. Io per tutta la mia gioventù, cioè fino a quando ho compiuto 18 anni praticamente, per me il cinema era al mare, non era città. Okay. Cioè, in città capitava raramente quella volta che usciva proprio il filmone, non so, mi ricordo King Kong o Ghostbusters, allora il papà ero piccolino e ti portava al cinema perché era quello, o i film della Disney, ecco, allora ti portava al cinema. Ma tu non avevi fratelli più grandi? No, era più piccolo mio fratello, io ero il fratello grande, no. E infatti fino ai 18 anni andavamo al cinema, era al mare. E come facevi a informarti del film al mare? C'era la locandina, Le locandine, cioè tu andavi, c'era la via, tu andavi la mattina per andare in spiaggia, sulla strada per arrivare alla spiaggia, dalla casa alla spiaggia c'era la locandina e tu vedevi il film o i film che avrebbero fatto, perché nel paese dove andavo al mare, era Borgo Veresti, c'erano tre cinema e tu vedevi tutti e tre i cinema quale film c'era, lo Splendor, vabbè, c'era... Esatto, vabbè, tu poi sei particolarmente sfortunato perché vivevi proprio nella provincia, quindi già anni 70 più provincia, diciamo che era una combo abbastanza, sì, mortale, esatto. In realtà io che vivevo abbastanza centrale a Roma, diciamo che questo problema non ce l'ho avuto e al cinema ci andavo da ragazzino con i miei e invece comunque più cresciutello, insomma anche 12-13 anni, insomma, anche se poi ti rompevano un po' le balle quelli insomma. No, io ero improvviso per andare al cinema a Milano, era un'impresa all'epoca, dovevi prendere la macchina, il viaggio lungo, esatto. Però c'era il cinema dell'oratorio, non c'era. Ah sì, che faceva i film di 20 anni prima, fa niente, sì. Si andava, sì, spesso al cinema dell'oratorio, dai. Il cinema d'essè, come si dice adesso. Beh sì, diciamo che il cinema dell'oratorio a volte, cioè nel senso, vabbè, era pure particolare. Dovete considerare che quando noi parliamo di film al cinema è ancora oggi così il meccanismo, anche se da un punto di vista tecnologico completamente diverso, cioè quando c'era un film, il film di prima fascia, diciamo, veniva stampato in X copie, perché ovviamente i film erano in pellicola, venivano distribuiti nelle sale cinematografiche e quelli che poi alla fine non rientravano per qualche ragione, diciamo, alla produzione, venivano poi ridistribuiti nei cinema minori. Quindi alla fine, esatto, piano piano il cinema, il film che tu vedevi magari nella parrocchia era veramente il film dei 4, 5, 6 anni, anche 6, 7 anni prima, insomma, no? Esatto. Ed era già una fortuna comunque averci un titolo, capito, importante all'interno di certe sale cinematografiche, perché poi alla fine comunque non era, cioè erano comunque costosi poi i film, fondamentalmente. Sì, però poi nelle queste sale di paese arrivavano spesso i film d'autore o comunque quelli importanti che io da bambino proprio non mi interessava. Io volevo andare a vedere, non so, Gorgo o qualcosa lì. Ve lo ricordate Gorgo? Chi è che se lo ricorda? No, Gorgo non me lo ricordo. Era un film di serie B giapponese, una specie di copia di Godzilla, quando c'era stata la King Kong, la Piovra, c'era stato lo squalo, la Piovra, King Kong e Gorgo, che era una specie di mostro giapponese orribile, una roba mai visto proprio, ma neanche mai scoperto. Parente dello scrondo, sì, esatto. O dello sgorgo, anche un pochino. Cercate Gorgo e lo trovate. Va bene. Dunque, che pazza brutta che hai avuto, Carlo. Sì. Comunque, quando sono diventato più grandicello, io non leggevo il giornale per scegliere i film, perché a quel punto era già l'88-89, quindi eravamo già quasi alla fine degli anni 80, e quindi io li sceglievo in televisione sulle TV private, che c'era Anika Flash. Chi se lo ricorda? Sì, Anika Flash. Sì. Ho messo, non so se hai visto il documento, Simone, ce l'hai aperto per caso il documento? Sì. Guarda che ho messo un link, provi a mettere su quella sigletta lì, l'ho vediamo visto. Se viene. Sì. Proviamo. Ci posso anche provare, però... Cioè. No, se vuoi, calma, non è che succede niente, perché quella sigla lì mi ricorda... Ta-ta-ra. Per me questa vuol dire cinema. Ta-ta-ta-da. Quando sentivo questa sigla, vediamo cosa c'è al cinema. E vedevi i trailer dei film. Sì, ok, no, ma infatti è così, in effetti era assolutamente... Assolutamente così, però già qui stiamo parlando, insomma, di un periodo successivo, diciamo che 88-89. In generale, comunque, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, comunque lo vedevi, appunto, come dicevamo, dai giornali. Ai giornali facevi una selezione rispetto ai cinema più vicini, quello che poteva essere il film più interessante, e lo si andava a vedere. E a volte capitava magari che si faceva proprio una scelta con la famiglia di andare al cinema, oppure, appunto, come abbiamo detto, si andava un po' con gli amici. In generale i cinema, appunto, abbiamo detto, ci avevano un film soltanto. Questi film rimanevano di solito per una settimana, due settimane, e nella piccola provincia, ma questo è ancora così in realtà, nella piccola provincia magari un cinema teneva un film due o tre giorni, ma fondamentalmente soltanto un fine settimana, un weekend. E questo è ancora così poi in certi centri. ad esempio Monterodondo. Sì, se ci, se ci sono ancora, perché da noi, esatto, almeno al nord, i piccoli cinema sono scomparsi completamente. No, noi qui proprio recentemente il cinema Mancini, che è il cinema storico di Monterodondo, in realtà è stato recentemente stato riaperto, tra l'altro facendo anche una bella iniziativa con Anni Moretti, insomma, diciamo, con una proiezione speciale e via dicendo. Il cinema esiste ancora, cioè è stato riaperto, appunto, è stato dato a delle associazioni che hanno fatto un certo tipo di lavoro, e quindi c'è anche c'è una cosa anche positiva dietro, no? Però appunto il film sta un giorno, due giorni, insomma, di solito, e poi c'è questo riciclo continuo, anche perché poi oggi c'è comunque il triplo dei cinema, dei film usciti che escono, insomma, rispetto a quello che c'era una volta, insomma, che magari, insomma, c'era molto meno materiale, no, in un certo punto di vista. E, prego. Sì, sì, ho detto sì, sì. No, volevi dire, volevi dire. No, no, era semplicemente. No, sì, sì, beh, lui ragazzo, sono invidioso che ti abbiano riaperto il cinema Monterotondo, ah, okay. Che qua da noi invece non ce ne sono più, ma proprio io non conosco un paese uno che ne abbia ancora uno aperto, non so. Conosco Melzo. Vabbè, Melzo c'ha l'Arcadia, capito? Che cazzo. Vabbè, sì. Lì vengono fuori da Milano per andare lì. Nel, esatto, mio paese, esattamente di fianco, c'ho il multisala qua. Vabbè, il multisala, di Vimercati. No, nel mio paese c'è anche i cinema piccolini, quelli che c'erano una volta. C'è ancora cineteatro. Come si chiama il nostro cineteatro? Vabbè, c'è un cineteatro. Vabbè, comunque questa, film e teatro. Questa cosa del 1986, l'Odeon, il primo multisala a Milano, chi è che l'ha scritto? Non è vero, io l'ho scritto. Ah, okay. L'avevo scritto anch'io in fondo. A Milano c'è stato uno dei primi multisala, okay, della storia. Sì, poi fu comprato da Berlusca, come quasi tutto il resto. E l'Odeon è stato anche il primo cinema in Italia dove è arrivato l'impianto THX. E io mi ricordo. Ma infatti gli Odeon erano una catena, tra l'altro, e c'erano anche da noi, ed erano quelli con le sale più fighe, anche quando poi hanno iniziato a arrivare i cinema moderni. Però qui stiamo parlando di una cosa che non c'entra niente. Io invece voglio ricordare e vorrei sapere anche la vostra esperienza, perché ho detto, magari, cioè, bastava spostarsi da regione a regione, già le cose erano diverse, che tu quando andavi al cinema ovviamente il biglietto lo facevi là, non potevi né telefonare, né prenotare, non c'era internet, ma non potevi manco, né che gli telefonavi, so pizzi, no, che ne tieni, no, da parte, no, tu biglietti, andavi se lì, telefonavi era chiuso, esatto, prima 10 minuti prima del film, esatto. Ma la cosa bella è che tu andavi lì e facevi il biglietto direttamente, e il biglietto tu lo trovavi sempre, perché comunque non importava quanta gente ci fosse nella sala, loro il biglietto te lo vendevano sempre, perché alle brutte stavi in piedi, e questo è una cosa che poi negli anni è completamente sparita, anche per ragioni di sicurezza, sì, per ragioni pratiche, insomma, per ragioni anche comportamentali, no, diciamo, perché tu andavi lì, compravi il biglietto, che di solito era questa striscetta, tipo i numeretti che trovi in farmacia, praticamente, per capirci, che si strappavano, tu andavi dal tizio che stava all'entrata della sala, che veniva chiamata la maschera, che era di derivazione teatrale, poi come cosa, in effetti, questa è una cosa abbastanza importante, che lui ti strappava il biglietto, se avevi difficoltà ti accompagnava dentro con la torcia elettrica, però non è che ti cercava il posto, perché non esistevano i posti, no, cioè, nel senso, non c'era la prenotazione, no, non c'era niente, non c'era niente, no, non c'erano numeri sui posti, tu andavi, no, ti mettevi seduto dove capitava, se capitava dove c'era libero, esatto. Dove c'era libero, se c'era libero, se no, appunto, si stava in fondo alla parete. Io mi ricordo in fondo alla parete in piedi, perché magari la sala era completamente piena. Ho seduto anche sui gradini. Oppure se eri con gli amici, come mi ricordo io, ti sedevi in due su tu e magari una ragazza in braccio a te. Esatto, immagino che quello dietro doveva essere stato tanto contento, poi, soprattutto. Esatto, perché poi ricordate che quei cinema, rispetto a quelli attuali, non erano a scalare dove tu puoi essere alto 2 metri e va tutto bene. Lì, se ti trovavi lo spilungone davanti, tu sceglievi il posto che dici, cacchio, non c'è nessuno davanti. 3 secondi prima dell'inizio del film, trac, si sedeva quello alto 2 metri. Non col cappello. E non potevi dirgli niente, non, cioè anche potevi dire oh, spostati, girati, diciamo che cinema allora, proprio per tutta questa serie di problemi anche di etichetta comportamentale che non esistevano assolutamente, erano delle polveriere, cioè poteva succedere veramente di tutto, cioè si poteva litigare per qualsiasi ragione, no? E, sì, cioè, è vero, no, io levate che te non ci vedo, oh, ma fatti i cazzi, dove vai a fanculo, cioè nel senso, capitava più spesso e volentieri, è capitato qualche volta che si creava un casino, il proiezionista staccava la proiezione, accendevano le luci, arrivavano dentro la sala e facevano beh, che è sto casino qua, mo ve butto tutti fuori, tanto avevi pagato, quindi cioè, non è che non esisteva il concetto del rimborso del biglietto, no? Queste sono cose troppo cioè, di una civiltà superiore, insomma, diciamo così. Sì, anche gente che parlava e tu si sì, esatto. Mi ricordo una pittura. Giusto, perché ho appena letto nel gruppo che Luca mi dice il THX non è un impianto ma una certificazione, solo per fare il pignolo, perché io ho detto che era un impianto. È giusto che faccia il pignolo. Hai detto talmente pignolo. Hai detto impianto. No, hai detto impianto. No, ho detto no. Ma era stato prendi indietro, rewind. Io ho detto aveva il THX, aveva. Non ho detto aveva l'impianto THX. Aveva. Vabbè, era sottinteso. No, tu hai detto impianto. Hai detto impianto. Ti devono pacchettare ogni tanto, vai dietro, come faccio ad andare dietro? Che cazzo, sono mica c'ho la macchina del tempo, che è sta cosa? Vai che puoi, puoi tutto. Potremmo registrare, però ci siamo ricordati, vero, di registrare? Io sto registrando, però avresti vedi che puoi. Sì. No, registrerà un messaggio di servizio. Vabbè, comunque è giusto comunque che ogni tanto anche Carlo venga bacchettato. Comunque, ma se mi bacchettano giusto, vabbè, va bene, ma se dico una cosa che non ho detto, devo dirlo. No, tu vabbè, oh, ragazzi, no, cioè, non gli date spago, perché sennò no, lui continua vita natural durante, va in loop, capito? Cioè, nel senso, andiamo avanti perché c'è una trasmissione da portare avanti. Comunque, una cosa carina è che molti di questi cinema, anzi no, molti, tutti, perlomeno quelli storici al centro delle città, erano comunque dei teatri, ma fondamentalmente che venivano riconvertiti, no? in cinematografi, e tra l'altro molti avevano quella configurazione classica del teatro, ossia la platea sotto con la galleria sopra, e diciamo che tante volte, soprattutto i ragazzini, se capitava e prendevano la galleria sopra, che mi pare che costasse di meno, no? Quindi alla fine era c'era anche un motivo per cui prenderla, ovviamente con le bibite, le cose, gli sputacchi a quelli di sotto, insomma succedeva sempre un po' di tutto, e queste maschere che erano quelle insomma addette a farti entrare o roba del genere, anche questi salivano oppure ti cercavano in trascina, ti acchiappavano per le orecchie e te tiravano fuori, insomma, nel senso che comunque noi ci andavano molto per il leggero, insomma non c'era diciamo il politicamente corretto sul modo in cui affrontare questo tipo di problematiche. Ne avevo parlato anche a scuola, ne avevo parlato anche in altre occasioni, e quei tempi c'era più la mano che volava, gli ceffoni che volavano, sì, tanto sì. Ti prendevano e ti buttavano fuori, sì, ti acchiappavano per le orecchie e te portavano fuori, ma non è che ti prendevano delicatamente per il braccio oppure facevano attenzione a non toccarti, visto come fanno oggi, no? Tutti che braccia alzate, io non ti ho fatto niente, oh, dove, bravo Bianco. Invece lì ti acchiappavano i capelli e te portavano assolutamente fuori. E un'altra cosa, secondo me, importante da ricordare è che i film avevano un orario d'inizio, e questo sì, perché era indicato anche nei giornali e tutto quanto. Però diciamo che non c'era la regola che c'è oggi, cioè nel senso, comunque quando il film è iniziato, in teoria tu non puoi più entrare, no? Se sono passati X minuti, diciamo, tu non puoi più entrare. Invece, una volta al cinema si entrava a prescindere, indipendentemente da tutto, potevi tranquillamente entrare a metà del secondo tempo, e quando finiva il film rimanevi dentro per vedere il resto del primo e della metà del secondo tempo successivo. Anzi, magari a volte aspettavi proprio la fine del primo o secondo tempo, entravi così ti guardavi il secondo tempo e poi dopo guardavi il primo, guardavi il film al contrario. Sì, esatto. Sì, spesso mi è capitato, almeno in diverse occasioni, di rivedere due volte il film. Cioè, tu lo vedevi e stavi dentro e nessuno. Allora, volendo, potevi farlo, perché nessuno deve venire a controllare, se, come abbiamo detto. Cioè, tanto era comunque prevista questa cosa dal fatto che tu, se entravi tardi, tu ti finivi e ricominciavi a vedere il film, magari lo vedevi fino al punto dove eri arrivato, ah vabbè questo l'ho visto, e poi te ne andavi. Ma è proprio il modo di vedere le cose che era completamente sballato. In realtà, cioè, vedevi il cinema come una sorta di intrattenimento, no? Quindi forse il film lo seguivi o non lo seguivi, però insomma diciamo che era un po' un modo barbaro di affrontare le cose. Vabbè, so se... perché avevo anche detto primo tempo, secondo tempo, adesso molti ragazzi non sanno più neanche cos'è il primo tempo, secondo tempo, perché è vero, non c'è più. È vero, è vero, diciamo che alcuni cinema, anche alcuni multisala, ancora la tengono la cosa, semplicemente per una ragione commerciale, che poi è lo stesso motivo che succedeva anche allora, no? Cioè allora esatto. c'era un motivo tecnico, no? Le pizze, cioè quindi le bobine, diciamo, di pellicola tenevano X minutaggio, no? Esatto. Tant'è che questo molti non lo sanno, ma nelle sale proiezioni cinematografiche i proiettori non era uno, ma erano due, perché spesso e volentieri capitava, e non so se vi ricordate quei pallini che si vedevano al lato della pellicola, indicavano al proiezionista che dovevano azionare la seconda proiezione. Arrivati a un certo punto, ovviamente, per riavvolgere tutte quante le bobine c'era bisogno di fare la pausa da primo e secondo tempo, e lì entrava il bibitaro. Il bibitaro, che non è come oggi che entra con la macchinetta era proprio il bibitaro col cestino davanti, tipo quelli che vedevi allo stadio tantissimi anni fa, Borghetti. Esatto, che passava tra le file, caffè Borghetti e dolciumi. E una cosa che secondo me avrete notato, che è sopravvissuta anche al giorno d'oggi, la bomboniere. Cioè, la bomboniera, che so, quei dolcetti, quei gelatini di cioccolata, che sono tipo dei mini cremini, che si chiamavano i bomboniere, no? E quelle erano. Che ti arrivavano mezzi sciolti già, però. Esatto, e tu finivi di sciogliere perché tu li prendevi con le mani e facevi un macello, insomma. Quindi, ecco. Erano contornati di cioccolata, dentro erano liquidi, non lo sapevi, bisognava avere la testa. Sì, dentro c'era la crema, e poi fuori era. Devi ficcarlo tutto in bocca. Subito, rigorosamente. Ma sì, sono ancora così. Però ormai quello che passa tra i posti nei multisale è scomparso completamente. Sì, non c'è più. Sì, no, adesso sì, forse sì. Qualche cinemino. Però no. Diciamo che, per esempio, da noi all'UGC fanno la pausa del primo e del secondo tempo ed entra il tizio direttamente col macchinario, cioè nel senso a Milano no, col distributore, entra proprio direttamente il distributore. È poco efficiente. No, a Milano non c'è più neanche la fine del primo tempo. Quello neanche da noi in generale, no, nel senso. Però ci sono alcuni cinema che diciamo che mantengono questa cosa per dare la possibilità, insomma, di alzare due spicci di più, sì, perché poi fondamentalmente c'era l'altra cosa più importante, era che bisognava andare a pisciare, insomma, c'è anche quello che si sta. Quello purtroppo c'è ancora, adesso ti perdi un poco di film. Sì, diciamo che una volta, diciamo che io, per esempio, sta questione di andare a fare la pipì non ce l'ho mai avuta. Quando vado al cinema mi metto seduto fino alla fine, che non è difficile che mi alzo, no? Però una volta c'erano meno, come posso dire, c'era meno periodo pubblicitario. Oggi, per esempio, tu entri alle 8, fino alle 8:25, 8:30 è difficile che inizi il film. È tutta pubblicità, trailer, pubblicità, trailer, pubblicità e trailer, no? Quindi diciamo che un minimo di agevolezza tu ce l'hai, insomma. Allora la cosa era un po' più complicata da questo punto di vista, non so se siete d'accordo. Allora, vedevo che stesso se ne stava dentro e si guardava il film. Ok, questo l'abbiamo detto. C'è Claudio, Claudio, l'amico di Davide, che dice: le sedie di legno a ribalta, esatto, la scomodità, esatto. Sì, infatti, secondo me una delle questioni principali era proprio la cosa del comfort. Erano le sedie, quelle vecchie sedie di legno fondamentalmente, anche magari che poi in alcuni nei cinema belli erano imbottite, nei cinema quelli proprio brutti erano proprio di legno e basta. Sì, allora, quelli più di provincia o di parrocchia erano proprio le sediacce di legno, oppure del mare, come diceva Carlo, perché ricordiamoci che nei posti di mare tante volte c'era questa abitudine di creare queste proiezioni, spesso all'aperto, esatto, e capace anche che te la portavi da solo dalla sedia, cioè non è poi che... quando pioveva tutti a casa non si vedeva più il film. Io esatto. Ho un aneddoto sul cinema all'aperto al mare. Vai. Quando sarà il momento. Beh, io e mio padre siamo andati a vedere un film che per me ero troppo piccolo forse per quel film. Comunque quel film era veramente una cagata, detto così amichevolmente, poi vi dico il titolo. E siamo andati a Ferragosto a vederlo, la sera di Ferragosto, e praticamente era all'aperto, a un certo punto sono cominciati i fuochi d'artificio e tutta la gente del cinema eravamo lì a guardare i fuochi d'artificio. Il film proprio fregava più in casa, finiti i fuochi d'artificio ce ne siamo pure andati quasi tutti. Il film comunque era Rollerball. Bello, oh, bello. Sì, ma io avevo 10 anni, non era un film per un bambino di 10 anni. No, anche perché era molto violento, c'era sangue super punti, violento, cose. Sì, sì, assolutamente. Era pure il gioco per 64, vi ricordate? Sì, sì, certo. Era sì, lo mi ricordo perché siamo capitati a vedere quel film, perché aveva attratto la locandina, nessuno dei due sapeva che film fosse, eh. Si vedeva gente che pattinava, non sa il cacchio, era attrattiva la locandina, perché a volte c'era anche l'arte della locandina che attirava, certo, hai capito? Certo. Però guardavi, beh, sì, che quello... bello, poi da vedere c'era un film che non c'entrava un cacchio con la locandina che vedevi. Sì, mi ricordo c'era anche il trucco all'epoca di fare i film che sembrassero col titolo il seguito di un film famoso, quando in realtà non c'entrava un cazzo, erano altri film americani tradotti con un altro titolo in italiano per attrarre la gente. Sì, mi ricordo in particolare in Italia è uscito La Casa 2 e La Casa 3 che non c'entravano niente con la casa. Alien 3, mi ricordo Alien 3 sulla Terra. Beh, sì, ma che era un film italiano. Esatto, lo facevano anche in America, tipo War Games 2, tanto per dirne uno che cioè... non c'entrava un cazzo. Vabbè, oggi c'è proprio tutto un sottomercato di sta roba, eh? Quindi cioè, nel senso, anche con gli home video è sempre stato così, poi alla fine se vai a vedere... Sì, è capitato tante occasioni. Vi ricordate che era possibile anche, abbiamo detto che per andare al cinema si leggeva sul giornale per vedere che film c'era, a che ora c'era, no? Ma sì, se non ricordo male c'era anche un servizio della SIP. A provarsi. Probabile. Sì, probabile. Sì. Che tu chiamavi una cosa che costava tipo 1000 lire, sì, a chiamata. Sì, sì. Io telefonavo alle notizie sportive fino a che mio padre non l'ha staccato il telefono, perché poi costavano, io penso, veramente 1000 lire al ogni 30 secondi quella roba lì, insomma. Si costavano veramente un sacco di soldi quelle cose. C'erano le fiabe pure, se vi ricordate, infatti a Michela racconta sempre il fatto della nonna che la metteva, prendeva il telefono, chiamava l'ora esatta. Esatto. Sto dicendo, sì. Che numero era? 161 o 191? Cos'era? Comunque pure la sveglia, è vero, io qualche volta l'ho utilizzata. 114 la sveglia. Sì, la sveglia, è vero, hai ragione. La sveglia, come no? Che l'avevo usata anch'io, è vero. È capitato, come no? No, sui cinema ci sarà stato sicuramente un servizio, no, nato sicuramente negli anni 80. Lì dovevi il giornale, non c'era un altro modo, ma se per qualche motivo non ce l'avevi... 1000 lire. Sì, diciamo che, guarda, ipotizzando che, e se sono abbastanza convinto che in effetti probabilmente c'era il servizio della SIP, però il servizio della SIP era generale, cioè ti diceva i film che c'erano al cinema, non è che ti dicevano dove... No, c'erano quelli della città almeno. Questo sono meno convinto, però può essere. Mi ricordo che si andava un po' anche a caso, almeno quante volte, almeno a me è capitato un sacco di volte che c'era il giornale che diceva che c'era un film, magari il giornale era della settimana scorsa, prima, no? Allora tu andavi e poi convinto di andare per vedere quel film lì e ce n'era un altro. E quando eri lì ormai guardavi quello lì, cosa succedeva? È vero, capitava un sacco di volte. È capitato anche quello. Certo, io invece c'era una cosa che ho già raccontato altre però volte. C'era il multisala in qualche città, tranne Monterotondo, quindi a Milano. Guarda, io a Monterotondo ci sto qui da 10 anni, quindi non so in realtà che tipo di situazioni c'erano, però sì, noi andavamo al multisala, vabbè, però ero già un ragazzino un po' più grande, sceglievamo track, Jack. Ma era l'Odeon di Milano dietro al Duomo. Sì, ma cioè, il multisala negli anni 90, regà, non è che qui stiamo parlando di un'altra epoca. No, cioè, anni 80. 86-87, quegli anni lì. Anni 80, cioè. Comunque. Sì, dai, vabbè, dai. Comunque, in generale, c'è una scena che io racconto sempre, cioè, perché mi è rimasta veramente impressa. E poi, tra l'altro, in una delle puntate scorse di Quando Eravamo Futuro avevamo detto che poi in realtà la legge che vietava il fumo in determinati locali pubblici già esisteva in Italia. Il problema è che, come tante cose, insomma, poi venivano rispettate fino a un certo punto. Questo è sempre stato un po' così. E io mi ricorderò sempre questa cosa dello schermo con la scritta vietato fumare, che era fatta con una diapositiva bucherellata, cioè nel senso praticamente i bucherelli della diapositiva facevano la scritta vietato fumare, era fatta apposta così, c'era, era pure carina come cosa. Quindi c'era questo schermo scuro con questa scritta bianca che era ovviamente la, la luce proiettata, e se tu ovviamente giravi la testa dallo schermo al proiettore si vedeva praticamente tutto il fascio di luce che c'era, tutto il fumo delle sigarette che saliva praticamente, no? Quindi cioè, è una cosa che, e qui i cinema puzzavano in una maniera incredibile di fumo, no? Anche se e anche quando poi si è veramente smesso di fumare, fino a che alcuni cinema appunto non l'hanno rimodernati, riadattati e anche restaurati, insomma sta puzza di fumo è rimasta persistente. La puzza di fumo non se ne va mai via, cioè la roba che dura per sempre quasi. Sì, sì, infatti è, cioè, devi fare un bel lavoro di rinfrescamento. Sradicare tutto. E io ricordo che io negli anni 80, così, quando questi cinema dove si poteva fumare sono un po' più o meno scomparsi, c'era ancora quell'uno o due cinema a Milano, e ricordo che i miei fratelli mi portavano sempre in quei cinema lì a vedere quello che c'era, non ha importanza finché ci fosse stato, perché lì si poteva fumare. Andiamo al cinema, adesso non ti so dire il nome, facciamo finta, al cinema Capitol. Andiamo a vedere il film al Capitol. Ma che film è? Ma andiamo là, perché là si può fumare. E niente, si andava là solo perché si poteva fumare. Era uno degli ultimi residuati dove potevi fumare. Insomma. Esatto, poi anche lì ha dovuto soccombere, giustamente, direi. Beh, c'era veramente comunque un posto atroce dove, guarda, fumare. Io che ho fumato per tantissimi anni, ho fumato di brutto, insomma, chi mi conosceva sapeva, io comunque la notte mi svegliavo, fumavo, la mattina quando mi svegliavo prima di far colazione, la prima cosa fumavo, cioè per me ero proprio il fumatore proprio assoluto, insomma, da questo punto di vista. Però devo dire che nei locali pubblici, nei locali chiusi, soprattutto quando erano particolarmente chiusi, perché insomma alla fine non è che c'erano tutte queste correnti d'aria dentro una sala cinematografica, e ancora oggi è così, e anche giustamente perché comunque le sale devono essere insonorizzate tanto, e tutto il resto. E, insomma, a me nei posti chiusi mi ha sempre dato fastidio fumare, mi ha sempre dato fastidio il fumo, e quindi era una cosa che diventava insopportabile. Diciamo che noi allora eravamo abituati, perché se vi ricordate fondamentalmente si fumava dappertutto, si fumava sugli aerei, si fumava sui treni, si fumava negli uffici, si fumava dal dottore, negli ospedali, si fumava dappertutto, ragazzi, cioè. Su ogni tanto su Blob, quando fanno vedere i vecchi pezzi della TV anni 70, vedere i presentatori tipo Corrado eccetera, che presentava Domenica In con la sigaretta in mano e fumavano intanto mentre presentava la trasmissione, una cosa assurda se ci pensi adesso, però. Sì, perché era anche la percezione del fumo che era diversa, cioè nel senso non la si vedeva come una cosa nociva, la si vedeva come bere la birra, cioè la stessa cosa, sì, cioè, nel senso, era una cosa che bisognava fare se volevi essere alla moda, roba così. E comunque tu non sei un fumatore incallito fuma in automobile con il portacenere della macchina sempre pieno di sigarette, che quando entri nella macchina fumi praticamente, anche se non stai fumando, eh. Quello è il fumatore incallito serio. Quanto fumo passivo ci siamo beccati, praticamente fumavamo tutti praticamente. Vabbè, ma lo diremo, rinnoveremo questa cosa quando parleremo dell'episodio di quando siamo sopravvissuti, esatto, con le cose che c'erano, esatto, in quegli anni. Esatto. Cioè, soprattutto quello, con la roba da mangiare, cioè noi ci possiamo considerare veramente dei sopravvissuti. Comunque, una cosa che è completamente sparita, e completamente sparita anche giustamente da un certo punto di vista, perché è ovvio che oggi le tecnologie sono completamente diverse, e la presenza della televisione nelle case, anzi oramai la televisione è una cosa anche superata, no? Cioè, nel senso, comunque i media noi oggi li usufruiamo in continuazione da tantissimi dispositivi, però insomma alla fine degli anni 70 forse tutte le famiglie avevano un televisore a casa, però probabilmente non era una cosa così scontata, e diciamo che si sono andati ad estinguere verso la fine degli anni 70, ma ancora c'erano i cinegiornali. Capitava raramente, ma ogni tanto qualche cinema lo tirava fuori, ed erano ovviamente questi residuati storici dove praticamente c'era ovviamente il giornale, quindi le notizie, che poi erano delle notizie assolutamente generiche e non d'attualità, perché chiaramente magari quel tipo di cinegiornale girava per un mese all'interno dei vari cinema, quindi cioè, nel senso, non è che venivano aggiornati tutti i giorni, anche perché ricordiamo che erano comunque in pellicola. E questa è una cosa che poi piano piano è andata a sparire. Però chi ha avuto l'opportunità di vederla ha comunque vissuto un pezzo di storia importante, perché con i cinegiornali comunque l'Italia veniva informata negli anni 60, negli anni 50, perché non tutti ovviamente avevano l'opportunità di avere. Ma voi l'avete mai visti? Io sì. Io quelli credo. Dell'Istituto Luce erano quelli del Esatto, anche. Io no, li ho visti. L'Istituto Luce che si vedevano questi documentari a volte. Mini documentari, oppure direttamente. Ho visto dei film dove si vedeva che si vedevano, ma io non li ho visti. Comunque nei tempi di guerra, un po', o poco dopo la guerra, così c'era anche un po' di propaganda. Certo, diciamo. Vabbè, quello però... allora si faceva, non c'era la TV, poi tra l'altro, come dicevamo, appunto. Io non ricordo di averlo mai visto, sinceramente. Neanch'io. Io Istituto Luce l'ho visto tante volte, all'oratorio in particolare. Perché all'oratorio faceva vedere robe molto molto vecchie. Ma no, da noi all'oratorio c'era Attenti a quei due, i film UFO, sai, quei lungometraggi strani. Vabbè. Non so, io sono più vecchio di te, probabilmente ho visto, fatto il tempo a vederli. No, ma l'ho visti anch'io. Da noi ogni tanto erano in fase totalmente di estinzione. Ma sai che Roma era 10 anni indietro da Roma rispetto a Milano. Quindi. Sì, no, ma questo non è che è quello in discussione. La cosa in discussione, invece, secondo me, è il fatto che loro prendevano un blog. Allora, tante volte era un mini documentario luce su un certo tipo di tematica speciale, oppure a volte erano una, due, tre notizie, magari che riguardavano Roma o l'Italia o via dicendo, che venivano comunque postate, diciamo, non postate, venivano ovviamente proiettate all'interno della sala cinematografica prima del film. Era un modo per ed era una cosa che una volta c'era una grossa consuetudine, appunto, proprio perché non tutti avevano dei sistemi per poter essere informati come la televisione o i giornali. Magari la gente, insomma, sai, leggeva e non leggeva, era un modo per diffondere le informazioni e fare anche propaganda in generale. Però ecco, fino agli anni, alla fine degli anni 70 questa cosa è sopravvissuta, e me ne ricordo uno in particolare con mio padre, che eravamo andati a vedere un film di guerra, tra l'altro lunghissimo, una cosa che è una palla incredibile, non mi ricordo neanche che cazzo di film era, ma comunque era un film I cannoni di Navarone. No, guerra navale, poi tra l'altro era, quindi insomma una cosa terribile, con i sommergibili, cioè una palla incredibile. E mi ricordo che prima di questa cosa c'erano delle notizie proprio sulla nettezza urbana, su determinate cose, addirittura a volte avevano anche la funzione civica, cioè nel senso che comunque magari era un tipo di propaganda che volevano fare per aiutare magari la gente a tenere pulite le città e via dicendo. Insomma, comunque era un fenomeno che c'era, che è andato estinguendosi ovviamente, però insomma qualche residuato ogni tanto alla fine degli anni 70 c'era, e comunque mi è capitato di vederlo un paio di volte. Interessante, devo dire che è figo il fatto anche soltanto di pensare di aver potuto vedere qualche cosa, insomma, che oggi non avrebbe proprio senso, insomma, diciamo, è pure difficile farlo capire, insomma, secondo me una cosa del genere. Quindi insomma, a voi non vi è mai capitato? No, mi è capitato, e se non ricordo male, mi ricordo di aver visto probabilmente all'oratorio un documentario sull'Eternit che durava anche all'oratorio cioè. Faccio fatica a pensare che possano essere arrivate comunque determinate cose, perché comunque allora era un documentario che si faceva vedere la tecnologia italiana nella creazione di questi materiali, era una bello, cosa positiva, poi faceva bene quello. Sì, poi dopo abbiamo scoperto che non era, che ha ucciso massimo, milioni di persone, sì, vabbè, dicevano esatto. Che era un'eccellenza italiana, un'invenzione diffusa in tutto il mondo, produciamo, facciamo, ma cancerogena, però quello. Poi dopo, vabbè, insomma, dopo non è andata come è andata, però fa niente. Ha fatto fare tanti soldi, sia chi li ha fatti e sia chi li sta levando. Allora, una cosa da rilevare nei cinema era la tecnologia audio, ma al di là della parte più strettamente visiva, era pellicola, la pellicola è pellicola, cioè non è che, a meno che non dentro un cinema non c'era un proiettore con una buona lampada, insomma, in generale comunque le proiezioni in pellicola secondo me ancora oggi fanno insomma, farebbero ancora il loro sporco dovere, soprattutto quando vedevi dei film in panoramica, in cinemascope, quindi con tutte le ottiche anamorfiche che piazzavano sui proiettori, insomma tutta una roba importante. La pellicola rimarrà sempre per me un sistema di proiezione comunque meraviglioso. A me sempre, sono sempre adorato la pellicola, ve l'ho detto, lo so, l'ho spiegato tantissime volte. Forse una delle, delle grandi pecche alla fine degli anni 70, inizio anni 80, era l'audio, che secondo me è una delle tecnologie che per prima forse è cambiata all'interno delle sale cinematografiche più rapidamente, cioè nel senso da un certo punto di vista, perché è stata la prima vera trasformazione che è quando siamo passati ovviamente dal cinema col diffusore mono generale ad alto volume a comunque i primi cinema stereo, poi ai cinema, il primo Dolby Surround e fino ad arrivare ovviamente al THX Sound System e tutti poi ovviamente i sistemi attuali che oramai l'impianto THX, esatto, che poi l'impianto certificato THX, esatto, che poi voglio dire, anche se è una certificazione, se non c'è l'impianto non ma certificato da chi? Esatto, da THX, da Lucas in persona, esatto, da veniva, signor Lucas, arrivava lui, veniva lui. Vabbè, esatto. il chat vabbè, Roberto ha pubblicato il 198 come numero di telefono per gli spettacoli cinematografici, chissà se magari funziona ancora. Prova no, vabbè, mi ha sbloccato un ricordo, il 197, che non mi ricordavo. Ve lo ricordate? Sì. Chiamate urgenti. Che quella era una cosa terribile. Sì, perché sì, sì, era vera. Sì, era le radio e le televisioni che facevano uso del telefono, c'era sempre quello: salve, sono urgente. Carlo, volevo dire tu, chiamata urbana urgente per il numero 069, che dovevano abbassare il numero, perché sennò, cioè nel senso, sentivano i numeri dei cazzi loro, che veramente la gente comunque poi era uno strumento del demonio quello. Infatti quando l'hanno eliminato hanno fatto solo del bene a, probabilmente costava le solite 1000 lire o 2000 lire. Sì, ma c'era gente che magari per romperti i coglioni la gente ci andava povera, insomma, cioè, quindi comunque ecco, la questione dell'audio secondo me è stata una cosa importante. E poi, come abbiamo detto, le sedie, cioè nel senso, la grande trasformazione nei cinema sono state il modo di poter stare seduto, la poltroncina, la controcina sempre più comoda, poi dopo la poltroncina normale con la poltroncina VIP, il poggiatasti, il poggiatazza. Le poltroncine per me sono state però il male, perché ho iniziato ad addormentarmi al cinema, se prima era brutto. Io almeno stavi sveglio per forza. Poi dovevi andare da chiropratico dopo un film ogni volta. Vabbè, dipende, guarda che quelle che hanno iniziato a mettere, tipo l'Arcadia, quelle erano proprio comode. Ma cioè, ti dormi bene. Svelatemi un segreto che io non ho mai capito. Nel cinema dell'oratorio mio, ma credo dappertutto, era l'unico posto all'epoca dove vendevano tutte le caramelline fighe. Oh, c'è, a tutti gli oratori erano così. Esatto. L'avevo anche scritto. Che cos'erano le caramelline fighe, scusa? Le coccacoline, sai, quelle cose particolari che, almeno dove ero io, finché, sai dove le potemmo comprare per la prima volta? Sembra assurdo, ma da Blockbuster. Sì, allora, quello che noi oggi compriamo al supermercato tranquillamente della Ribo, quelle confezioni con dentro tutte le robe colorate, quelle robe cancerogene che noi compriamo. Ma che fanno malissimo. All'epoca c'era questa vetrinetta, quel bancone fatto tutto di vetrinette con tutti i riquadrini quadrati dentro, con le more, i lamponi, le stringhe rosse, gialle, verdi, le coccoline, le liquirizie, tutte le cose separate, no? I lupini, i famosi lupini maledetti, le noccioline, c'era qualcosa che tu andavi lì con 100 lire e ti facevi il sacchettino da mangiare. Sì, ma non si trovavano fuori, era quello. No, non era, tipicamente non si trovava, se non al mercato. Al mercato qualche volta trovavano. Al mercato, io ricordo che la prima volta che all'oratorio, no, non c'erano all'oratorio. Sì, all'oratorio. Dopo anche al cinema dell'oratorio. Non ho detto fino adesso l'oratorio. No, ma proprio al bar dell'oratorio. Sì, anche sì, anche al bar dell'oratorio, poi si estendeva anche al bar dell'oratorio, perché comunque l'oratorio poi era un posto dove le cose costavano poco, molto poco. C'era una mafia dietro, vedi? Io mi ricordo che la prima volta che sono riuscito a prenderle in Italia, a Milano, quindi eravamo anche avanti, come giustamente ricorda sempre Simone, fu al Blockbuster. I primi blockbuster, la monnezza che ci stava dentro blockbuster, che droga che era di quel blockbuster. Mi ricordo che è stato il primo posto dove ho trovato i popcorn dolci, che schifo, schifo, guarda che schifo, caramello, caramello, che noi eravamo abituati ai popcorn salati, sono arrivati quelli dolci, la fine. Vero, non ho portato poi le americanate, ma ho portato poi le americanate, sì, ma delle americanate hanno portato la peggio merda, cioè nel senso, potevano essere. Vabbè, Blockbuster era figo, potevi affittare i videogiochi e copiarteli, guarda che non era male. Sì, vabbè, quello era lo sport nazionale in quegli anni lì. Non c'era la PlayStation. Non c'era bisogno del Blockbuster per questo, comunque, onestamente. Però poi. Però là potevi scegliere, affittavi, ti piaceva. No, sai cosa? Blockbuster per chi copiava i DVD e i videogiochi, tanto ormai è tutto caduto in prescrizione, era che potevi affittarli anche per poche ore. Mentre sì, nelle videoteche minimo era un giorno, due giorni. Blockbuster ti dava l'affitto per 6 ore, 7 ore, quello che era. Cioè che tu andavi e era per, non so, prendere il film, lo guardavi e poi lo riportavi. Tu cosa facevi? Prendevi il film o il videogioco, lo pagavi pochissimo perché lo affittavi poche ore, andavi a casa, copiavi e lo riportavi praticamente, non lo guardavi neanche. Poi dopo lo guardavi, guardavi la copia con calma. Se lo guardavi. Se lo guardavi. Sì, sì, andava a Blockbuster solo per selezionare i giochi da copiare. Si guardavano, si prendo questo, quello. Perché poi no, comunque sapeva. Tirava all'epoca, mi ricordo. Cioè, sì, vabbè, ma torniamo in topic. Dai, cioè, comunque, c'è Andrea che scrive che lui di Blockbuster si ricorda le fughe notturne a buttare nella Dropbox le cassette noleggiate e puntualmente dimenticate in casa per settimane. Ed è vero questo. Questo sì, è vero. Sì, infatti, sì, per me quello era il vero business de Blockbuster. Cioè, comunque il fatto che pagavi poi le penali, no, per tutte le cose che te tenevi assolutamente. Per i ritardi. Comunque, dicevamo, il fatto che i film ovviamente erano in pellicola e venivano proiettati chiaramente da un proiettore che era uno strumento meccanico, no? Dove ovviamente lo scorrimento della pellicola veniva scansionato dal rumore dell'otturatore che a velocità di 24 tempi per secondo ovviamente faceva questo tipico rumore che era quello appunto della proiezione, che tutto sommato faceva parte del fascino del cinema e del cinematografo, però se capitavi nelle ultime file, giustamente il proiettore sentivi più quello che sentivi questa mitragliatrice che tutto il tempo che ti entrava dentro il cervello, cioè alla fine era bello, era tu pensa al proiezionista che stava dentro in sala lì, che stava di tutto il tempo, che due palle, hai detto, alcuni avevano le cuffie, hai detto quello, bene, cioè, ma io penso sì erano attrezzati, perché poi attrezzati. Vedevi il fascio di luce soprattutto quando eri nelle sì vedevi, ti giravi, vedevi il buchino da cui usciva la luce, quando eri dietro vedevi il fascio di luce, sì, esatto, che poi tra l'altro penso che si veda anche adesso, a dire la verità, no, perché molti allora quelli che hanno ancora il proiettore digitale sì, ma quelli che hanno lo schermo retroilluminato no, cioè nel senso retroproiezione adesso molti ormai quasi tutti sono in retroproiezione, sì. Però che è un peccato, tutto sommato, anche quindi retroproiezione vuol dire che hanno dietro uno spazio di lunghezza equivalente alla sala, no, perché adesso hanno delle lenti, quelle lì Fresnel che praticamente mettono il proiettore a 3 metri dalla a parte tela, a parte il fatto che non so se avete sono certificate, avete visto i nuovi proiettori laser, cioè il proiettore laser ha 12 centimetri dalla parete, ti proietta 150-200 pollici. 150, sì. Quindi grazie a queste lenti qua. Quindi alla fine cioè non è più tanto quello. È vero che secondo me sebbene, ecco, io per esempio ho visto alcuni proiettori laser di cui mi sono innamorato e un giorno mi piacerebbe comprare, se tu la qualità insomma ti riporta un pochino a una bella qualità, una bella luminosità tipica di quella di un proiettore cinematografico, dall'altra la mancanza del fascio di luce e allo stesso tempo anche del passare davanti all'immagine, roba del genere, un pochino secondo me sta cosa è vero il passare quando tu guardavi il film e passava le persone che camminavano, le onde, esatto sì esatto. Beh, infatti in molti screener quelli erano terribili, che è gente che passa davanti a ogni schifezza possibile. Io devo dire la verità, questo lo dico proprio apertamente, anche quando tutti erano super curiosi di vedere il film. Io non ho mai visto una cassetta, cioè non ho vista una, anzi 5 minuti di una, ho detto io non capisco il senso di avere l'esigenza di vedere un film che è uscito in sala e avercelo in videocassetta e vederlo de merda. Non lo vedo a sto punto, scusa, cioè, perché veramente de merda. Anch'io ero, ma io anche quando lo facevano le prime volte, se quando distribuivano i primi film piratati su Emule eccetera, all'inizio giravano anche molti di questi. Gli screen, sì, sì, la maggior parte erano quelli. Certo. Ma io li buttavo via tutti. Cioè, io onestamente anch'io, ma l'unica cosa che guardavo erano quei film che sicuramente non sarei mai andato a vedere al cinema. Dei film sfigati, cioè, sai. No, io neanche quelli. No, ma non c'aveva, non c'aveva senso, non c'aveva senso, no, onestamente. Cioè, non era. Cioè, perché ti perdi tre quarti del film. Sì, ti perdi tutto l'audio, ti perdi. Ma poi c'è, voglio dire, gente che parlava, c'è cioè, gente che ci parlava, che camminava davanti. Sì, dai, anche perché, quello, sì. Dai, su, dai, ma per carità, cioè. Cioè, veramente... Vabbè, ma non quel livello lì, dai, anche quel livello lì mi rifiutavo, anche perché si sentiva registrato col microfono. Col microfono, e beh, come volevi fare gli screeners, scusa, gli screeners così li facevi. Io prendevo i DVD rip, vabbè, ma i DVD rip, grazie al cazzo, lo screener era registrato, è arrivato, allora, lui. Il screener mi è capitato forse una volta o due, ma poi veramente ma poi tutto slavato, tutto scuro, che si vedeva di schifo, cioè proprio oggettivamente io non capivo. Lì veramente è la maniacalità culturale, no, nel fatto ti ho inculato, no? Ma cioè ti sei inculato da solo, perché stai a vedere la merda piuttosto di io ho visto il film appena uscito al cinema, però ce l'ho già in cassetta, io sono più furbo di te. È l'italianità. Sì, sì, no, guarda, questa è una cosa che io non ho mai capito, cioè veramente, perché cioè piuttosto te vedi la schifezza, però poi di che tu il film l'hai, ma che hai visto? Non hai visto niente, cioè. Esatto. Cioè. E poi l'esperienza, diciamo, il cinema, per quanto bello possa essere vederlo a casa, il cinema è il cinema. E lo era allora, io mi ricordo. Soprattutto allora, adesso magari a casa riesci anche a farti degli impianti, sì, con 60 pollici, sì, è vero, però l'esperienza cinematografica è sempre stata affascinante, no? E ancora forse un po' un residuo, anche se secondo me c'è un diciamo un abbandono, anche vederlo in gruppo, cioè a me, bravo, non so, bravo, bravo, anche il fatto di essere, non so, 100, 200, 300, cioè, è diverso che essere in 1, 2, 3, ma io penso proprio anche all'esperienza, spettatore e anche amici, perché siamo lì in 5-6, sì, per poi discutere, chiacchierare, parlare, scambiarsi un parere. Io credo che alcuni film, se non li avessi visti al cinema, forse non, e li avessi visti solo in televisione, non mi sarebbero piaciuti. Per esempio, uno di sicuro che a me è piaciuto tantissimo, un capolavoro del cinema che a me è piaciuto tantissimo da subito, e mi è piaciuto tanto perché l'ho visto subito al cinema, è stato Pulp Fiction di Tarantino. Io quello l'ho visto al cinema in prima visione, e quando sono uscito ero entusiasta. Ho avuto amici che magari l'hanno visto in televisione eccetera, ho visto male, non erano così, cioè non ho visto lo stesso entusiasmo che ho avuto io a vederlo al cinema, e probabilmente sarebbe stata la stessa cosa. Beh, io guarda, se ti devo dire, faccio un raffronto con un film recente che forse aiuta ancora di più a capire, anche se è un film che a me fondamentalmente, devo dire la verità, non mi è piaciuto come film, cioè nel senso non mi ha aggiunto e non mi ha dato niente, però è l'esperienza di vedere il nuovo Dune al cinema oggi, con tutto il grande lavoro audiovisivo che ci sta dietro, e vederselo magari in televisione o magari sullo schermo del computer, non se perdi il 60% del film, lo perdi, cioè non è, no, che ma è vero questo, perché per quei film lì soprattutto la stessa cosa per un vecchio film, come si chiamava quello di quello degli indiani, arca miseria, ragazzi, sono vecchio. Come cazzo si chiama quello che ha fatto anche il film Balla coi lupi? Oh, porca miseria, benvenuto. Kevin Costner. A me Balla coi lupi, Kevin Costner. Balla coi lupi, il film, voi l'avete visto, Balla coi lupi? Sì, sì, sì. Io l'ho visto in televisione, a parte che non mi piace il genere, però a me non è piaciuto per niente. Però chi è andato a vederlo al cinema, c'era in effetti una fotografia, i paesaggi, le cose, tipo coinvolgimento. Vale anche per Il Signore degli Anelli, io mi ricordo di aver visto, che so, Guerre Stellari al cinema la prima volta. Sì, vabbè, sì, tutti quelli, quei film li abbiamo tutti Colossal, cinema, oh. Certo, non è la stessa cosa, cioè. Però a casa non si potrebbe neanche vedere quello. No, esatto, quello. No, anche perché noi siamo cresciuti, questa è una cosa importante, ma al di là del fattore audiovisivo nel complesso, che noi sappiamo che oggi ancora una sala cinematografica ben fatta ci restituisce bene. Ma una cosa importante è che noi siamo cresciuti vedendo in home video, quindi sulla televisione o sulle videocassette, a volte anche sui DVD, i film che erano croppati, e questa è una cosa, quattro terzi croppati, ed era rarissimo vedere le bande nere che ti davano, perché non c'aveva senso in un... E comunque anche se vedevi le bande nere vedevi una striscetta in mezzo. Esatto, bravo, esatto. Piccolino, e quando tu la stessa cosa l'hai rivista al cinema, perché magari l'hanno rieditato, l'hanno masterizzato, hai cioè avuto l'opportunità e te lo vedevi nello spettacolare formato 2.35 al cinema con i colori giusti, con e ovviamente l'impatto era chiaramente tutta un'altra storia. Cioè, quando c'era, io ricordo per esempio di essermi comprato il cofanetto di Guerre Stellari, avendo speso un botto, ed era una roba abbastanza difficile, cioè non è che si trovava ovunque la prima volta. Beh, comunque considera che i primi tre Guerre Stellari, quando erano usciti in videocassetta, erano groppati, cioè anche Lucas lo disse, cioè nel senso noi facciamo un lavoro e quando poi dopo lo andiamo a distribuire la metà di quel lavoro l'abbiamo buttato via. Ma tu pensa che quando pagò in 100.000 lire, per dirti, o di più addirittura, cioè che per l'epoca erano... C'era un mercato, quell'epoca si pagavano la cifra. Non lo so se lo sapete, quando uscirono i primi film della Disney Pixar, che sono stati praticamente i primi film in computer grafica della storia, le edizioni casalinghe home video in 4 terzi erano completamente re-renderizzate per i 4 terzi. C'erano due film diversi in pratica, c'era la versione cinematografica in CinemaScope formato 2.39, adesso 2.35, e c'era la versione renderizzata diversa, spostando i personaggi eccetera, per il 4 terzi per la videocassetta. Quindi questo c'è il primo, anche a una qualità di rendering inferiore, perché sennò se dovevano rimettere a rirenderizzare tutto quanto il film alla stessa qualità cinematografica ci mettevano il triplo degli anni a farlo il film. Questo insomma, non te lo so dire, però le videocassette sicuramente avevano una qualità inferiore, però il rapporto proprio il 4 terzi, cioè tu prendevi il film in 4 terzi che era un altro film praticamente, rispetto, cioè che lo vedevi comunque bene perché avevano rifatto le scene per il 4 terzi, perché potevano farlo, ricordo anche era in digitale dei finti movimenti della camera per a volte il pan scan. Quello è il pan scan, sì, che spostavano la camera sul però lì era comunque tagliato. Tu immagini il regista le bestemmie, cioè nel senso, esatto. Se io, perché esatto. è anche una questione di linguaggio visivo, no? Di grammatica cinematografica, l'usare o non usare un determinato tipo di movimento che tu facevi, perché ovviamente dovevi passare da un tizio all'altro che stavano parlando, e essendo ovviamente in CinemaScope uno stava da una parte e uno stava all'altra, e tu stavi in mezzo fondamentalmente col crop, quindi alla fine sì, zozzerie ragazzi. Però secondo me quegli anni, negli anni dello video popolare, quando si girava un film si pensava anche al fatto che quella scena sarebbe dovuta andare a finire sulla videocassetta 4 terzi, e quindi la giravano pensando anche a quello, perché tutte le volte che ci sono stati dei momenti particolari nella vita del cinema, in base alle esigenze del mercato si girava come si deve girare. Quando c'era la moda dei 3D, i film si giravano normalmente, si facevano anche 3D per poi dopo proporli nelle due soluzioni, si faceva il doppio della fatica. Beh, vabbè, in realtà quando tu giravi un film 3D ovviamente lo giravi con due macchine da presa, quindi facevi l'effetto stereoscopico. Se tu volevi la versione monoscopica bastava prendere semplicemente la pellicola di uno dei due piuttosto che di tutte e due, insomma, cioè. Questo è vero, però c'erano anche le scene progettate apposta per avere un maggiore impatto. È vero, sì, vabbè, però insomma, diciamo, questo... la spada del tizio che ti punta sul naso e tutta la vendita. Ok, questo è assolutamente vero, però è vero pure che è peggio il contrario, cioè nel senso portare dal 2D al 3D piuttosto che dal 3D al 2D. Vabbè, insomma, qual è un film famosissimo che era stato girato in 3D negli anni 60? o 50 addirittura. Tanti ne girano tanti, che era super il titolo, me ricordo, ne giravano tanti con gli occhiali rossi. Considerate che la tridimensionalità nel cinema risale praticamente alla notte dei tempi del cinema, perché anche sì, negli anni 20 e negli anni 30 fecero esperimenti sulla stereoscopia. Era un film di Hitchcock, vi aiuto, era un film di Hitchcock. Gli uccelli di Hitchcock, no. No, quasi. Psycho. No. Era quello sulla sedia a rotelle che guardava dalla finestra. Ah, è quello del la finestra sul cortile. Assassino. La finestra sul cortile. Quello è stato girato in 3D. Non sapevo. Sì, no, la moda, se vi ricordate, sembra una barzelletta, però se vi ricordate Ritorno al futuro, non so in che anno sono, nel 1954, in che anno erano? 1900. C'è uno dei tre ragazzi sfigati, amici di Biff, che ha gli occhialini rossi e blu. Sì, è vero. Andavano in giro anche con comunque c'è Luca che ci dice in chat che anche certi film in videocassette erano certificati di HX, ridendo, quindi immagino che non sia vero. Il prerequisito era il widescreen. Comunque il fenomeno widescreen, quindi le bande, hanno incominciato ad essere più di diffusione con l'avvento del 16 noni, perché chiaramente mettere un 2.35 su un 16 noni è una cosa, metterlo su un 4 terzi significa praticamente mettere una striscia colorata all'interno del niente, insomma, quindi era molto più complicato proprio come tipo di rapporto, insomma. Detto questo, però, comunque, al di là di tutti i tecnicismi, che poi non sono questo il tipo di puntata, quello che volevamo raccontare era il fatto che comunque all'interno del cinema le condizioni erano totalmente diverse, ma proprio perché l'approccio culturale in generale era completamente diverso. E la cosa importante da sottolineare è che anche un'etichetta comportamentale era diversa. Oggi sarebbe assolutamente impensabile entrare a metà del secondo tempo per poi vedere, per tante ragioni pratiche, perché ovviamente oggi i posti sono numerati, si può prenotare e tutto quanto, e due, perché comunque non è proprio concepibile entrare dentro al cinema quando oramai lo spettacolo è, diciamo, abbondantemente iniziato, per tante ragioni. Ma questo a legare poi con il fumo, con il fatto delle sigarette, le sedie e tutto quanto, insomma. Entrare a metà film fumando, parlando con l'amico di fianco, esatto, e intanto con il popcorn e... crunch. No, perché cazzo, dove ci sediamo, minchia, fumando. Tutto questo si poteva, esatto, fare. Esatto. E non era così, si sì, beccavano un paio di ma finiva lì, insomma. Sì, sì. Almeno qua a Milano, a Roma so che vi menavate, sì, direttamente, esatto, sì. No, direttamente con le cortellate finiva, perché insomma. No, in realtà mi è capitato rarissimamente di vedere cose particolari, però qualche litigata, sì, ma in realtà quelle ci sono ancora oggi, cioè nel senso che comunque se nel cinema oggi entra il cretino, forse da quel punto di vista era più facile riuscire a risolvere il problema prima, perché comunque c'era, come abbiamo detto, la maschera, che comunque oggi nelle sale cinematografiche non c'è nessuno che controlla, quindi devi uscire tu, andare a chiedere a qualcuno che si occupi delle persone che stanno facendo casino dentro, magari, quindi sai, è un po' anche diverso proprio come tipo d'approccio, però chiaramente l'esperienza era completamente diversa ed era più semplice per certi versi, così come era proprio più semplice la vita. Oggi siamo molto più contornati dall'esperienza in sé, quindi dalla parte ovviamente più tecnologica dell'aspetto audiovisivo, della comodità, del fatto di poter mettere la bibita lì e tutta una serie di cose che una volta non erano lontanamente fantascienza, nel senso che non ci si pensava proprio al fatto che uno se potesse avere la poltrona comoda col portabicchieri, insomma, cioè che era una cosa proprio neanche ci pensavi, cioè non stava nel cielo, in terra, insomma. Allora, l'importante era la compagnia, l'importante era passare una serata o al cinema o al bar, esatto, o in compagnia. Era una roba come un'altra e non si pensava poi troppo al comfort, poi chiaramente le esigenze sono cambiate. Allora Carlo, sì. No, Carlo ha postato giustamente il Blu-ray con l'edizione originale in 3D con l'edizione originale, però bisogna vedere se è una cosa rifatta oggi o se veramente no, c'è scritto, leggi, ho postato il link perché l'articolo parla appunto che fu girato in 3D e poi anni se ne sono dimenticati, perché il 3D è una cosa che nel cinema va a ondate, no? Sì, sì, quando l'hanno inventato c'è stato un po', poi anni 20, anni 30, poi hanno riprovato negli anni 40, poi negli anni 50, ogni 10-15 anni lo ripropongono. Quello che non riescono a comprendere è che per quanto uno possa sforzarsi è comunque un artificio che tu crei al cervello e tagli fuori il 40% delle persone da questa esperienza, la tagli completamente fuori. Poi al di là degli altri invece che magari escono fuori col mal di testa e via dicendo, perché poi insomma è un artificio, tu devi ingannare il cervello e il cervello lo sa che insomma tu lo stai a coglionare, insomma, quindi alla fine te fa uscire col mal di testa. Invece sono proprio persone... L'inizio dell'ondata è sempre un successo, poi dopo decade rapidamente. Sì, però vabbè, io c'ho gli anni sufficienti per dirti che sta cosa è tornata e ritornata ciclicamente una marea di volte. Quattro volte. Io la prima volta che sono andato a vedere un film era Lo Squalo 3 in 3D. Lo Squalo 3. Quindi alla fine... Ragazzi, io vorrei dire anche una cosa, al di là dei cambiamenti... vi ringrazio, vostro onore. Al di là dei cambiamenti che chiaramente ci sono stati, cambiamenti tecnici, e forse questa cosa si incrocia un po' dagli anni 70 agli anni 80, le cose che andavamo a vedere erano profondamente diverse, e la grande maggioranza, almeno parlo per me ma vale anche per i miei amici, erano comunque film di azione in gran parte americani. I film che si andavano a vedere negli anni 70 erano altre cose, oppure commedie americane o anche italiane con i vari attori, con i vari attori italiane, o di guerra, mi viene in mente, non so, Full Metal Jacket, oppure Apocalypse Now. Sì, tutte cose estremamente quello non so, gli anni 80 sono stati molto eterogenei, c'era un po' di studio, andavo a vedere quello che piaceva a me, e io per esempio gli anni 80 Full Metal Jacket e Platoon, capolavori assoluti della cinematografia, e tra l'altro mi sa che sono proprio i primi film che mi ricordo. Platoon in particolare a Pesaro, in un cinema di Pesaro, è stato il primo film Dolby Surround che ho visto nella mia vita, quindi immaginate insomma. Anche Apocalypse Now con quegli elicotteri e la colonna sonora, assolutamente sì. Però io Apocalypse Now l'ho visto dopo, cioè nel senso non l'ho mai visto al cinema, purtroppo, tra l'altro, perché se oggi lo dovessero riproporre, magari anche rimasterizzato, rilavorato, roba del genere, lo andrei a vedere subito al cinema un film del genere, insomma. Anche io ho avuto la fortuna di vederlo ed è tutta un'altra cosa, cioè, immagino, certo. Anche perché invece ho passato gli anni 80 a vedere film demenziali al cinema, brutta tutti storia. I film di Mel Brooks. Vabbè, fino a che Mel Brooks ci può anche stare. Quello che volevo dire è che c'è stata un'esplosione. I fratelli, quelli di Top Secret, eccetera. Top Secret per me quello che era un pazzo del mondo. Poi, vabbè, Mel Brooks, Balle Spaziali. È stato il film che ho visto più volte al cinema. Credo di essere andato al cinema 7 volte a vederlo. Al cinema, giusto per dire quanto ero matto. No, ma c'era un sacco di roba comica. O le commedie giovanili americane di cui abbiamo parlato in altri momenti. I Blues Brothers. Vabbè, Blues Brothers. C'era anche. Il film di Belushi. John Landis aveva fatto anche dei film ultra demenziali che sono andato a vedere al cinema anche quelli, che era stato, come si chiamava? Ridere per ridere, credo si chiamasse. O Porky's, Porky's. Ma Ridere per ridere era proprio l'apoteosi della demenzialità assoluta, cioè proprio un film che, se non l'avete mai visto, non l'avete mai visto Ridere per ridere? No. John Landis. Mai sentito proprio. Sì, sicuramente. Se l'ho cercato, perché lì è proprio l'apoteosi del demenziale. Proprio un film. No, me lo ricordo. Senza trama. Il periodo di terror, horror, truculento. Donne ammazzoni sulla luna. Vabbè. Quello. Donne sempre di John Landis. Dario Argento. Dario Argento, e poi a seguire tutti i vari film più o meno artistici o meno, fino ad arrivare alla truculenza, proprio dove i vari zombie affettavano le persone, così come ridere, schizzi di sangue da zombie scritto così, Z-O-M-B-I. Reanimator, chi l'ha visto? L'ho sentito, ma non me lo ricordo. Quello è proprio lo splatter più splatter Alien, voglio dire. Vabbè, comunque non era dei film che dovevamo parlare, perché sennò poi... No, non dobbiamo parlare di film, voglio dire, negli anni 80 c'è stata un'esplosione, questo voglio dire, cioè è un ordine di grandezza di più di quello che c'era negli anni 70, almeno come offerta. Come offerta sì, anche come sale si sono ampliate moltissimo. Sì, vabbè, ma è proprio cresciuto tutto il movimento in generale, e devo dire la verità, cioè in realtà proprio la quantità... No, di materiale, l'industria è diventata più potente, quindi alla fine sono subentrate anche le televisioni, quindi proprio la quantità dei contenuti è aumentata tantissimo da quel punto di vista, e devo dire che poi alla fine ne è andato sempre più col passare del tempo, sempre un po' a discapito della qualità in generale. Questo mediamente, poi chiaramente i capolavori sono sempre la nascita stati. Della computer graphic anche ha influito su questo, per cui sicuramente sì anche se no, nel senso che anche se perché in realtà la computer grafica, cioè allora ogni fenomeno tecnologico che attira molto l'attenzione, in realtà poi alla fine diventava pretesto per creare dei prodotti, no? E tante volte questi prodotti poi ovviamente erano magari di minore qualità, insomma, da questo punto di vista. Però alla fine, se tu vai a vedere film tipo Forrest Gump, dove l'uso della tecnologia digitale è massiccio, molto di più di quanto possa sembrare, perché è forse un buon 20-30% del film, è comunque propedeutico alla narrazione, e in quel caso si vede che comunque quel tipo di tecnologia è positiva, non è negativa. Diventa negativa quando ovviamente diventa il pretesto per cui fare il film, insomma, questo è esatto. Questo è senza meno, quando è la scusa buona. Mi ricordo tipo il tagliaerbe, quando c'era il momento della realtà virtuale, secondo me forzatamente è stato fatto sto tagliaerbe per cacciarci dentro a mani e piedi la realtà virtuale. Ma noi ci ricorderemo anche un bellissimo Starfighter, dove la grafica 3D dove la grafica 3D a livello cinematografico mancava anche di texture, perché non c'era proprio la tecnologia. Esatto. Per Tron, certo. C'era computer grafica, però sì, c'era stato uno dei primissimi. Ma Tron, guarda che era così come Automan, che non è un film, chiaramente, è una serie di telefilm, è molto meno di quello che si pensa. In realtà, in gran parte è fatta ancora con i vecchi. Sì, era fatto quasi tutto con polistirolo, cartone e cose. Però ci sono le scene mitiche, quelle finali di quando vanno nel mare lì della tranquillità con l'astronave e con le vele solari che la attraversano, che poi arriva e incontra Master Control Program. E quella era tutto in computer grafica. Era bellissimo quel pezzo lì. Quel film lì aveva una tecnica che penso sia stata usata solo per quel film, dove hanno disegnato fotogramma per fotogramma. Tutti i dettagli luminosi intorno alle persone sono stati li hanno colorati a mano, migliaia di disegni, centinaia di disegnatori cinesi. E lo sai che l'hanno fatto due volte? Sì, non perché l'hanno rifatto. No, perché ha sbagliato, perché la prima volta avevano mandato e avevano fatto quelli buoni in rosso e i cattivi in blu. E allora li ha rimandati indietro, diceva devi fare tutto. Comunque fotogramma disegnati a mano, ecco, era un periodo in cui il cinema faceva delle cose micidiali. Adesso le fanno lo stesso, però oggi ci sono i soldi. Anche all'epoca costava un sacco di soldi, lì era un rischio incredibile. Voi immaginate i tempi di rendering per fare una cosa che oggi faresti con un cellulare, no? I tempi di rendering lì, per farlo hanno dovuto affittare uno dei computer più veloci che c'era all'epoca, che non so per quanti centinaia di migliaia di dollari costasse al minuto, solamente l'affitto, escluso i tempi di rendering, cioè solo per usarlo, poi dopo calcolarlo. È proporzionata la cosa, perché se costa milioni di dollari al minuto, ovviamente più il tempo di rendering che più paghi, quindi sì, no, ma anche solamente là. Quando lo stavi disegnando o stavi inserendo i dati pagavi. Esatto. Quindi no, non che solo tempo di rendere tutto. E Automan fu cancellato perché costava troppo, non perché fosse andato male in televisione. Vabbè, comunque ragazzi, dato che sono anche noi, è bellissima questa conversazione, però parliamone quando parleremo di film di fantascienza degli anni 70 e 80, che sarebbe anche carino farlo come tipo di discorso. L'abbiamo già fatto anche questo, ma no vedrai, c'è ancora tantissimo da dire su questo. Comunque, in realtà ho voluto un po' distaccarmi dal fatto di parlare solo dei contenuti e cercare di ritornare un po' a quelle che erano le origini di questa trasmissione, che vuole anche raccontare appunto la società, il fenomeno, il costume, il modo di comportarsi, le cose che facevi, come le facevi e quanto erano diverse rispetto a quanto grazie a Dio sono diverse oggi, insomma, anche dalla parte grazie giusto a Dio. Giusto per chiudere, la prima volta che siete stati al cinema. No, io me la ricordo la mia prima. La prima non me la ricordo. Io sì, no. Bianca e Berni, mi ha portato mia mamma a vedere Bianca e Berni al cinema a Milano. Siamo andati con la 5. Bianca e Berni della Disney, non te lo ricordi? No, io me lo ricordo, quello che ho visto per primo sarà stato sicuramente un cartone animato con i miei genitori, ma non mi ricordo quale. No, manco io. Io sì, perché è stata un'esperienza talmente bella che me la ricordo ancora oggi, perché è stata una delle cose, infatti poi ho amato il cinema per sempre. Poi, comunque, se siamo in chiusura volevo ricordare due o tre cose. Vai. Di cui vi ero preso nota velocemente. Perfetto. Uno, vabbè, che non abbiamo detto mai, ma tutto il cinema, i cinematografi e tutti questi ambienti hanno avuto un periodo di transizione in quegli anni, penso dagli 80 in avanti, ai 90 forse, cioè che tutti i cinema sono diventati poi cinema porno. C'è stata questa transizione. No, questo non me la ricordo. Allora, più che una transizione, inquadriamola così, c'è stato un momento in cui il cinema, che non è stato in grado di andare verso una trasformazione che era quella ovviamente tecnologica dei multisala e via dicendo, hanno vissuto una profonda crisi e tantissimi cinema hanno chiuso. Quelli che hanno voluto provare a riconvertirsi in una maniera più semplice sono diventati dei cinema porno, ma in realtà a Roma i cinema porno esistevano già, cioè nel senso c'erano dei storici film cinema porno dove andavi lì e c'era sempre soltanto quello, che tra l'altro alcuni sono stati riconvertiti in Warner e in altre cose, quindi poi alla fine hanno trovato anche la dignità, e altri invece sono stati sequestrati, perché chiaramente il cinema porno a volte diciamo si accostava molto a quello che era magari l'ambiente malavitoso e situazioni prostituzione, situazioni, quindi tante volte venivano chiusi, bloccati, sequestrati strati e via dicendo. Quindi sì, diciamo che il fenomeno dei film porno c'è sempre stato, cioè nel senso però il fenomeno sì, però ricordo nel mio paese in particolare che molti cinema normali poi vabbè hanno dovuto soccombere ai grossi cinema eccetera, e pian piano sono diventati per un breve tempo tipo forse un anno cinema porno, per poi chiudere perché comunque non conveniva, anche perché tenere in piedi un cinema aperto non è che costi poco, tra energia, tenerlo pulito eccetera, un casino personale, se ci vanno quattro persone esatto. Non ha senso, no? Più il noleggio delle pellicole, perché comunque le pellicole non è che te le regalavano Esatto. Ma quelle le erano quasi tutte diciamo di straforo, infatti. Beh, non lo so. Ma non credo. Con la pellicola era difficile che potessero essere più tanto di straforo, perché comunque la pellicola qualcuno l'ha stampata e qualcuno l'ha distribuita. Quindi vabbè, ma molte erano vecchie, tanto non è che andavi a vedere. Ma onestamente non ci sono mai andato, non so che film facessero vedere, immagino che non fosse molto importante. Io l'unica cosa del cinema porno mi ricordo era quando leggevamo i titoli sul giornale per ridere. Ah, ok, certo. Ci siete mai andati? Fatemi capire. Io sì, sono andato. No, anche perché me li ricordo quando ero piccolissimo negli anni 70 che c'erano nei paesi, ma poi sono scomparsi, non l'ho mai più visti, io non sapevo neanche che esistesse. Una volta in compagnia, mi ricordo che il titolo non me lo ricordo, so che c'era il Fachiro Mazza, questo me lo ricordo. No, io mi ricordo a uno storico cinema di Roma, il Volturno, vicino a Stazione Termini, che praticamente in realtà noi eravamo andati lì perché questo mio amico diceva andiamo a vedere, perché il cinema era comunque un teatro, e allora prima facevano questo spettacolo di varietà con i spogliarelli un po' leggeri, una cosa abbastanza tranquilla, le brasiliane che ballavano, insomma una via di mezzo tra una rivista e una roba un po' osè, diciamo così. E poi dopo, quando finiva sto spettacolo, tiravano giù il telone e scattava il film porno, però noi non eravamo andati lì per quello, però poi sai, a quel punto eravamo ragazzetti, dice vabbè, vediamo di che si tratta. E poi dopo lì, cioè, tutto quello che a un certo punto era un pubblico normale sembrava diventare un posto dei vampiri praticamente, perché cioè, la gente si trasformava, chi andava all'ultima fila, chi si sentiva che faceva dei rumorini strani, chi magari ti si avvicinava troppo, insomma veramente ambienti che particolari, brutta roba. Il cinema porno era una brutta storia, ragazzi, cioè, nel senso, no, io poteva essere divertente una volta che tu ci andavi così per farti una risata, però era un po' una zozzeria, insomma, no, un po', era una zozzeria. Io un po' più grande di voi, e quindi ho fatto il tempo, li ho visti, ma onestamente sono arrivate le VHS prima ancora di poter andare. Beh, quelle me le ricordo già, le superiori che giravano. Che... Esatto. Vabbè, no, quello ci abbiamo fatto la puntata su questo. Esatto. È vero, esatto. Avevi preso la pellicola. Esatto. E quella che l'avevi spezzettata in sette puntate. Siamo stupisa. Ricordiamo, era una puntata sul porno che abbiamo fatto, quindi esatto, chi vuole riascoltarsela, credo si chiami Amore Analogico, cioè Moana Pozzi in copertina, quindi. Quella dove appunto si è appunto raccontato che ciucciavi le tette delle Barbie, o no, quella era prima, credo. Quella era sui giocattoli, giocattoli. esatto, no. La prima volta. No, cioè, le ciucciavi quelle vere, esatto. Poi vabbè, volevo ricordare, loro hanno notato, cioè, e non l'abbiamo menzionato, prima parlavi del proiettore che faceva il rumore della pellicola, cose eccetera. Però ogni tanto succedeva che si fermava, si formava la pellicola, si bruciava, si scioglieva. L'effetto blob, che è bello quello, capitato di vederlo sicuramente diverse volte. E il pubblico lì poi erano cazzi, perché ovviamente ritorniamo sempre al fatto che le pellicole venivano noleggiate e date comunque in gestione, quando tu gliele rompevi è vero che il proiezionista era capace di riparare al volo, però quando gli aridavi gli mancavano tipo un po' di fotogrammi, infatti mi ricordo che al mare soprattutto ogni tanto saltavano, se vi ricordate, vedevi esatto che saltavano le scene, vedevi un po' un certo punto, esatto, proprio così, e lì vuol dire che in un precedente episodio c'è stato l'effetto, qualcuno gli si era fermato, esatto. sì, perché poi voi considerate che quelle lampade che dovevano illuminare lo schermo della sala cinematografica, 8.000 milioni di watt, cioè nel senso neanche te dico dentro una sala proiezionistica quello che è. Se poi sono arrivate le lampade dello Xeno, comunque prima erano delle lampade come si chiamano quelle con i carboncini a lavagna. Sì, quelle che aveva detto i due di Croy, che cacchio ne so, lampade, robe proprio molto caldo. Volevo poi ricordare un'altra cosa, che invece questo mi è capitato di vederlo sempre, quando tu vedevi i film in villeggiatura, come dicevi che li guardavi solo là, in effetti quando si andava al mare una delle cose che si faceva sicuramente ogni tanto era andare al cinema, però la cosa curiosa era che nei posti di villeggiatura c'erano i film più nuovi rispetto alla città. Cioè era più facile d'estate, sì, d'estate. Che uscivano prima che nei grossi centri tipo Rimini, Riccione. Io a Borgo Prezzi avevo solo le seconde e le terze visioni. Sì, però questo capitava spesso, perché comunque i cinema nelle città a agosto in particolare si fermavano fondamentalmente, e quindi quelli che rimanevano aperti magari c'erano cose minori, e le pellicole di prima proiezione che uscivano ovviamente a agosto andavano nei centri, sì, nei più importanti centri di viaggiatura, quei posti lì c'erano sempre dei filmoni 007, tutti film nuovi che dicevi che tu li potevi vedere solo lì, perché poi arrivavi a Milano e arrivavano dopo a settembre, ottobre, e quindi tu dicevi l'ho visto prima, l'ho visto in anticipo veramente. E poi vabbè, ricordiamo il merchandising che è cominciato ad apparire nei cinema, a connubio delle patatine, dei popcorn eccetera, sono cominciate ad arrivare anche le magliette, le cose, quando tu uscivi dal cinema riuscivi anche a portarti a casa, questo negli anni 80 magari più, no, qui già quasi 90 secondo me, sì, beh, io ricordo Tron che hanno uscito No, Tron è vecchio, negli anni 80. Tron, quando io sono uscito dal cinema di Tron, anzi quando sono entrato anche, c'era già lì il videogioco di Tron appena entravi, e poi c'erano già in uscita, potevi comprare tutta una serie di accessori, di aggeggi, potevi già spendere degli ulteriori soldi. Probabilmente a Milano, nella grande città. A Milano, quello, sempre a Milano. Di fianco alla scala. Neanche a New York lo facevano. Solo a Milano. L'hanno fatto direttamente a Milano questa cosa. No, perché c'è comunque, è diventato far parte dei comunque io volevo anche cinema. Ricordare che i film li andavi a vedere al cinema, soprattutto quelli importanti, perché c'è stato un periodo che non so se per una questione di licenze, di accordi o cose, il film che tu vedevi al cinema difficilmente prima di 3 o 4 anni non lo vedevi in televisione. Veramente? Era voluto, perché c'era tutto il circuito che facevi prima visione, seconda visione, poi dopo arrivava in televisione. Certo. Quindi tu il film, se no, passavano un sacco di anni prima che tu lo potessi vedere. O ti vedevi lo screener? Almeno 3-4 per i film. Lo screener è stata moda degli anni 2000. Sì, dai. Che sì, poi lo screener è arrivato. No, anche perché io immagino lo screener degli anni 80 con le telecamere 90, che avevano i sensori ad altissima persistenza, vedevi le scie bianche piuttosto che il film, insomma. È vero. E poi sentivi i rutti, la gente che fumava. Quello anche oggi è così. Gli anni 90 c'erano. Gli anni 90 con le videocassette. Con le videocassette, cose inguardabili, con la VHS, non ho mai capito, è una cosa inguardabile, cioè non mi capaciterò mai io. Che te li vendevano i marocchini fuori dal supermercato. Sul tappeto. E poi vabbè, questo qui torniamo indietro molto nel tempo, comunque i piccoli paesi, i cinema venivano utilizzati, lo ricordo perché mi era capitato a Collecchio dove abitava mia nonna, che il cinema veniva usato per fare le riunioni comunali o cittadine, cioè cittadine che si dovevano discutere assieme al sindaco, eccetera, si andava nel cinema di turno. Sì. Bisognava essere uno spazio per ospitare un po', certo, di gente. Se andavo in un teatro o nel cinema, che dava l'opportunità. Erano dei posti di aggregazione più istituzionale, è vero. Sì, comunque questo succede anche nei Simpson. Comunque Lilith in chat ci dice che per chi volesse riascoltarla, Amore Analogico è la 2X01, quindi è stata addirittura la prima della seconda stagione. E Andrea Trevisan ci ricorda, e non dimentichiamoci dei cinema dell'oratorio, sì, ma ne abbiamo parlato. Abbondantemente, cioè no, veramente non abbiamo parlato abbondantemente, ma li abbiamo comunque citati, perché vabbè, cinema di non abbiamo detto del terzo tempo, ecco, quello sì. Ecco, racconta così chiudiamo, dai. No, perché praticamente si rilaccia a quello che dicevi tu, che il problema del primo e secondo tempo non era un problema solo commerciale, ma era proprio fisicamente, perché dovevi riavvolgere la pellicola, e quando c'erano i film particolarmente lunghi non c'era solo, esatto, il primo e il secondo tempo, ma c'era anche addirittura il terzo tempo, perché appunto dovevano cambiare. Vedi, questa non è solo una questione di memoria, questa è una questione di cultura. Bravo, perché in realtà il problema era la lunghezza, ovviamente. Esatto. Le pizze, quindi le bobine, si chiamavano le pizze, avevano una dimensione fisica e contenevano quel minutaggio, non potevano inventare un'estensione, esatto, anche perché i proiettori non l'avrebbero potuto sostenere, no? Bravo, vedi, con questo ha recuperato l'errore del THX. Del THX, bravo, esatto, bravo. Mi sei piaciuto, Carlo, mi sei piaciuto. E comunque Claudio, che è mio collega di lavoro, mi ha anche spiegato che lui per un certo periodo ha fatto il proiezionista, e mi diceva che per alcune occasioni le pizze arrivavano molto più piccole, arrivavano a gruppetti di 5 che tu dovevi riavvolgere tutto in un pizzone, e lui, il suo lavoro era prendere 3 pellicole, fare il pizzone per il primo tempo, poi altre 3 pellicole, finito il film doveva ritirare fuori tutto e rimettere le 3 pizzine, perché non sempre c'è il pizzone gigantesco, ma veniva consegnato anche il pizzo più piccolo. No, ma in realtà chi aveva, come dicevamo prima, chi aveva il doppio proiettore, cioè aveva l'opportunità di splittare proprio tra pizzettina e pizzettina, cioè nel senso facevi partire il secondo proiettore. Infatti, come dicevamo, quei tre pallini che si vedono a un certo punto nell'angolo in alto durante la proiezione, che noi che vedevamo al cinema notavamo, servivano proprio come segnale, perché era il momento in cui lui doveva splittare praticamente al secondo proiettore, e tu a malapena te ne accorgevi, perché chiaramente era bravo o non te ne accorgevi, però a volte saltava la scena. Ma io non me ne sono mai accorto. No, devo dire che chi sapeva fare il lavoro suo lo sapeva fare, non te ne accorgevi più di tanto, insomma. E anzi, tant'è che a volte, i primi tempi quando ero ragazzino, a me l'hanno dovuto spiegare, perché io mi domandavo sempre, ma che cazzo sono sti tre, capito? Se vediamo... un difetto, pensavi a un difetto della no, perché era troppo standard, capito? Ma avevo visto anche una specie di croce a volte, una roba strana, non sempre i pallini. Ci sono tante simbologie. Beh, magari sì. Io mi ricordo bene i tre pallini perché, cioè, mi è rimasto. Io mi ricordo i tre pallini, ma mi ricordo anche che erano quasi fatti a mano, cioè non erano proprio tre pallini precisi. Ah, sembravano capace, tre, non mi stupirei. Erano tre cose fatte col pennarello, una roba del genere. Io l'ho imparato in una puntata di Colombo. Ah sì, sì, ho capito quale. Per via di sti pallini. Che lui aveva il proiettore dentro casa. Che era, esatto, il produttore cinematografico, vero? Sì, che se, lei era una donna, una vecchia attrice, mi pare. Bravo, bravo. Dire. Madonna, che mi hai ricordato, terribile. Tu vuoi che queste cose che innescano? No, vabbè, sì, non so se l'avevo imparato lì, ma poi l'ho imparato perché comunque me l'avevano spiegato, perché comunque tu vedevi queste cose che era chiaramente un codice, cioè nel senso stava lì apposta, insomma, quindi... vabbè, dai ragazzi, io direi che... allora... Vabbè. Un po' a volte, perché quando uno cresce un po' ti manca, no? Magari un certo tipo di esperienza, però devo dire la sincera verità, e qui lo dico proprio col cuore in mano, oggettivamente andare al cinema oggi, anche se io ci vado veramente più poco, perché forse il cinema incomincia a perdere anche, siamo secondo me nella nuova crisi del cinema, secondo me, per certi versi, e forse quella definitiva anche, secondo me, perché comunque è dovuta alla tecnologia, che comunque adesso ti porti a casa, esatto, insomma, cioè. Adesso una volta avere il televisore grande era qualcosa di, adesso 60 pollici cosa costa, 600 euro, 500 euro. Io devo dire la verità, allora, se uno è un cultore e ha l'opportunità di spendere dei soldi, spende dei soldi e raggiunge determinati. Però io devo dire, da quando con Michela ci siamo comprati il proiettore, quello di Xiaomi, che è un proiettore di LP, tra l'altro 1080, che è a basso costo. 1080, esatto, ma adesso ci sono i 4K. Sì, esatto, però questo l'abbiamo comprato noi, l'abbiamo comprato apposta, perché noi l'abbiamo pagato 390 euro sto proiettore, no? Che tu dici, comunque un proiettore DLP, quindi con una qualità cromatica ad un certo livello, cioè non con il problema che hanno i vecchi LCD, che alla fine il bianco era azzurrino, roba del genere, quindi, però chiaramente non raggiunge i livelli di un proiettore che costa 1000-2000 euro, però cioè, nonostante tu te lo monti e la qualità è buona, i colori sono buoni. Sì, sempre che tu non soffri, che non sia no, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo questo problema, grazie. Stigmatico, perché io vedo il rainbow. Sì, sì, molti ce l'hanno. Mi dà fastidissimo. Anche se pare che su questo tipo di proiettori qui nuovi, in realtà, hanno di meno, risolto questo tipo di problematiche. Ma il cinema, secondo me, non morirà. È chiaro che si dovrà reinventare, e quindi magari offrire anche altre cose, come già stanno facendo. Io guarda, se dovessi pensare, io aprirei un piccolo cinema dove anche quotidianamente farei di un certo tipo di iniziative che so basate anche su quello che era poi il cinema, diciamo, da più da cineforum, no? Nel senso, non fare i film pallosi, però fare il film e accompagnarlo con una chiacchierata, con una discussione, con delle iniziative, perché oggi forse un cinema più piccolo, meglio fruibile, con un certo tipo di attenzione anche alla sicurezza, che ovviamente la gente va lì e magari in compagnia si gode uno spettacolo, magari ha una qualità che ovviamente a casa magari non può raggiungere, però insomma, ecco, una cosa molto ridimensionata, perché oggi secondo me le grandi sale prima o poi comunque andranno a sparire. Poi in realtà il Covid sicuramente a molti cinema gli è andato veramente una bella botta, e non so quanto questo fenomeno continuerà a sopravvivere nonostante tutto, anche perché abbiamo detto che è proprio il cambio generazionale, anche il modo in cui si usufruiscono le cose. I ragazzini oggi i film se li guardano sul tablet, non so, guardano al cinema, insomma. Poi magari in realtà potrebbe anche reinventarsi, come dice Carlo, e sopravvivere, però devo dire, insomma, sta cambiando tanto, stanno cambiando tante cose, le serie televisive sono più cinematografiche, quindi hanno catturato dal cinema l'estetica e il ritmo, e però hanno espanso la narrativa, perché ovviamente un film in un'ora e mezza deve raccontare una cosa che magari una serie in 5-6 puntate ti racconta meglio. Quindi in realtà le cose si stanno, oltre che contaminando, anche cannibalizzando fra loro. Io non so quanto il cinema veramente sarà in grado di sopravvivere. È certo che adesso prima o poi uscirà fuori un pappone nuovo che sarà un po' cinema, un po' TV, un po' social media, sarà, insomma, quindi probabilmente tante cose si trasformeranno come si sono sempre trasformate. La cosa bella è comunque il fatto di aver potuto vivere un'epoca in cui tiravi le gomme da masticata dalla balconata a quelli di sotto, e la gente che te strillava, arriva il tizio e te viava sganazzoni, insomma, questi fenomeni un po' da nuovo cinema paradiso, che comunque in qualche maniera noi l'abbiamo vissuti, l'abbiamo raccontati, perché meritano di essere raccontati, e fanno parte di un'epoca in cui le cose erano tutte un po' più semplici, ma erano un po' più brutte, diciamo. Insomma, quindi c'è sempre il... All'epoca non avevamo questa percezione, all'epoca era bello. Era bello, ma ancora bello anche adesso, cioè non è quello. Secondo me, sai cosa andrà molto nei cinema del futuro? Lo butto lì perché è ovviamente una previsione che lascia il tempo che trova, però io l'ho provata per una cosa che ho trovato molto interessante, sono gli eventi in diretta al cinema. In contemporanea tra più cinema che viene fatto l'evento, sono andato a vedere un concerto della Scala, della Filarmonica, al cinema, e effettivamente era in diretta, cioè c'era la trasmissione via satellite, sì, vero, vero, in sì. Alcuni cinema selezionati veniva trasmesso, sì, anche in contemporanea, i concerti a volte, tutti. Sì. E secondo me questa è una cosa interessante, perché ti permetterebbe di vivere dal vivo degli eventi, che possono essere concerti, ma potrebbero essere spettacoli, potrebbe essere una qualsiasi altra cosa. Tu immaginati vedere per esempio una partita di calcio, una finale che sta in Giappone, e tu puoi andarla a vedere al cinema vicino a casa insieme ad altri tifosi e vederla in diretta lì dentro, come se fossi lì praticamente. Quindi, beh, io per ora ci ho visto un'opera lirica, quello sicuro, quindi insomma alcune cose, balletto anche in diretta, devo dire. Questa è una buona sperimentazione, ma io devo dire che sto apprezzando molto quello che sta facendo Nexo Digital, anche che Nexo Digital sempre, sì, esatto, sì, che butta nelle sale quei documentari per uno o due giorni al mese, che quindi sì, tu sei invogliato, perché è una cosa che puoi vedere solo in quell'occasione lì, e vai lì e ti dà un motivo per andare al cinema. Altrimenti sì, devo dire, magari il blockbuster, sì, lo so che mi perdo una buona percentuale, ma a meno che non è proprio Dune o Guerre Stellari o qualcosa di veramente potente, ci penso due volte prima di andare con Alex, con Alex un annetto o due fa, anzi pre-Covid direi, 3 anni fa oramai, siamo andati a vedere appunto di questi documentari su Depeche Mode, che era per 2 giorni in sala, sì, sì. C'era tutta la storia di Depeche Mode. E poi voglio ricordare un'altra cosa che ha sì relazione col cinema, perché comunque il cinema è l'attore principale, ma non è proprio il cinema. Una cosa che invece è veramente una cosa da provare, l'avevo già detto anche a Runtime di Notte, forse l'ho detto anche da qualche altra parte, è andare a vedere per esempio a Chi Può, che ha un auditorium, un conservatorio nel proprio paese. Nell'auditorio del conservatorio spesso, molto frequentemente, fanno vedere dei film la cui colonna sonora viene suonata in diretta dall'orchestra. Quindi hai sotto l'orchestra che suona e davanti viene proiettato il film. E tu sì, ne hanno fatti alcuni anche qua a Roma, sì, anche sì, nelle sale importanti. Sì, anche questa, io questa l'ho mai vista, mi piacerebbe. Questa è veramente, io ho visto i filmoni, ho visto Indiana Jones, ho visto sì, anche film importanti su sale importanti, dove levano tutta la parte della colonna sonora e c'è l'orchestra che suona in tempo reale. È da brividi, vi dico che è da brividi. Sì, è vero, è un'esperienza della Madonna, vedere in diretta la suonare l'orchestra con il direttore d'orchestra che ha una specie di spartito, ha lo spartito, ma poi c'è anche uno schermo con tutti dei simboli colorati che scrollano, eccetera, per tenere il sync con il film, che lo capirà solo lui, perché era veramente una roba stranissima, perché lampeggiava rosso, verde, c'era una barra che scorreva, boh, c'era di tutto. Però lui sapeva come gestirla, l'orchestra perfettamente, non te ne accorgevi, da un punto guardavi il film, sentivi la colonna sonora, ogni tanto buttavi giù lo sguardo e vedevi che era lì sotto che suonavano, e tu dicevi porca miseria ragazzi, sembra vero. Comunque così se capita in generale sentire un'orchestra filarmonica dal vivo la profondità cosa, del suono, cosa. La vibrazione che ti arriva è sì, tutta sì. un'altra storia. È un altro ascolto. E poi vederlo con gli occhi che stanno suonando per davvero quello che ascolti, è anche quella. Sì, ma proprio anche la vibrazione, hai detto giusto che la senti per tutto il corpo, è completamente sì, diversa. Sì, la profondità proprio del suono, altro ma, che gli altoparlanti. Cioè, ragazzi, cioè. Ma vale anche per il teatro rispetto al cinema. E capisci cos'è il pianissimo e il fortissimo, perché sennò con un impianto, per quanto bello, non riesci a replicare la sì, perché comunque. Il suono poi alla fine tende a fare una compressione, quindi perdi tanta dinamica, e quindi alla fine in generale comunque il suono sentito dal vero con l'orecchio ovviamente che arriva da tutte le parti, esatto. A volte devi essere parlando. Anche un po' addestrato per questo, perché oramai siamo anche un po' disabituati, però quando ci vai proprio perché sei disabituato ti arriva la pezza, capito? Dici cioè cazzo, è tutta un'altra storia, cioè. Ma scusate, non è la stessa cosa per il teatro? È perché comunque tutta una serie di suoni, ad esempio, spariscono al cinema, comunque in televisione. Il tizio che cammina, si sentono bene i passi che rimbombano, altre. Sì, questo devo dire che però è un po' la colpa è del cinema italiano, perché se vedi i film in lingua originale che sono in presa diretta, questo ti rimane di più. Sì, però perché, ragazzi, la recitazione del teatro e quella cinematografica, indipendentemente da tutto, sono proprio due recitazioni diverse. Sì, perché quello comunque sì. Il teatro sei obbligato a caricare la recitazione, mentre che al cinema sei obbligato a fare il processo inverso, quindi a scaricare la recitazione, a renderlo più naturale, no? Quindi però il teatro è teatro, cioè ragazzi, comunque anche emotivamente, esatto. Quando sei lì e stai a vedere uno spettacolo dal vivo, certo, cioè nel senso comunque ti arriva proprio tutta l'emozione della se cosa. C'è qualcuno un po' più giovane che non ha avuto questa esperienza, c'è qualcuno che ci ascolta un po' più giovane che non ha ancora fatto questa esperienza, è davvero consigliato fortissimamente di farla, perché vale la pena. Assolutamente sì. Va bene, dai ragazzi, andiamo a dormire. Dai. Direi che abbiamo fatto una bella puntata. Ancora una volta abbiamo raccontato come si entrava in un determinato contesto, in un periodo veramente ravvicinato, tutto sommato, ma allo stesso tempo anni luce rispetto a quello che è la società di oggi, nel bene e nel male, col sorriso poi alla fine, perché insomma, se no falo, ma quanto mi piaceva di più allora, no, perché non è quello il discorso, l'abbiamo spiegato mille volte, insomma. Quindi la settimana prossima facciamo chi sapete voi? Non lo so chi tocca. Voi due? Tocca no, io l'ho fatta prima di Simone. Tocca Simone, quindi tocca Roberto. Tocca. Sì, allora quindi si fanno attenti a quelli. Ok, senza spoilerare. Vabbè, poi manderemo vari messaggi subliminali nei prossimi giorni. Bene, ragazzi. Però mangiate birra e salsicce nel frattempo. Sarciccia. Ormai l'hai idea. Con la R. A birra e le sarcicce, hai capito? Perché le sarcicce. Esatto, arriva Sergio Leone e ti ha dato sganassoni. Vabbè, ragazzi, ringrazio e saluto caro Sant'Agostino. Buonanotte a tutti e ci sentiamo presto, e forse a breve ci saranno novità sul canale di Archeologia Informatica, si spera. sì, molto presto. Ma la vuoi fare quella cosa che mi hai detto o no poi? Vabbè, ve lo dite dopo. Ringrazio e saluto Davide Gatti. Bene, buonasera a tutti, vi raccomando, buona visione. Guardando tutto quello che è la parte video che vi offre Runtime Radio. Bravissimo, e ringrazio e saluto anche Roberto Tomaiuolo. Grazie a tutti, buonasera, buonanotte, ci sentiamo la prossima settimana, non mancate perché ci divertiamo. È roba da ride e da piagne, da ride e da piagne. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Buonanotte. E andate al cinema.